ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più. Beh, alla fine avevano i coglioni per strada. Eccola. Sin dall'inizio ho detto questo. Sin dall'inizio l'ho detto, Non è che ci sono dubbi, andate a riascoltarvi le cose. E questo alla fine si è dimostrato, per carità. La gente che protesta per strada legittimamente, senza rompere i coglioni agli altri, senza occupare, occupare le autostrade, i valichi, eccetera eccetera, va benissimo. C'è gente vessata dalle tasse, gente vessata dallo Stato, eccetera eccetera. Però questi forconi, oggi erano solo 3.000 a Roma, quattro gatti con le bandiere italiane che volteggiavano lì a Piazza, certo, del Popolo. Forconi miei, addio, è finita, è tutto finito. E poi basta sentire, adesso, per carità, signor Calvani, Calvani questo qua, un amico di questo qua accanto, adesso lo presentiamo. No. Conterraneo. Calvani, per non carità, c'entra nulla con l'intellettuale che è in studio. Agricoltore dell'Agro Pontino, Calvani. Sentitelo oggi dal palco e mettetevi a ridere, va. Cittadini italiani, culla della civiltà occidentale, noi siamo meglio di questa gentaglia. Siamo molto, ma molto meglio. Ed è per questo che il 9 dicembre è iniziata la liberazione del territorio italiano da questi parassiti. Serve mica essere. Però liberazione, basta una B, non due. Liberazione. Vabbè, questo basta. Lascia perdere, ti attacchi a questa cosa, ma ti rendi conto? La liberazione. Ma da io ho sempre detto il peggio possibile dei signori Forconi. Ma è una imitazione, una pessima imitazione del grillismo. Di quello che sappiamo di lui. Ma mi parete Tremonti, però, perché come? Tremonti. Ma che è? Antonio Pennacchi, buonasera. Mi parete Tremonti, perché Tremonti prima, agli inizi, quando era arrivato Berlusconi, diceva che qua c'è il nuovo boom, il nuovo benessere, faremo un milione di posti di lavoro, qua tutto. Ma c'è la crisi? Ma no, che crisi? Noi stiamo bene, I ristoranti sono pieni. Poi quando è arrivata la crisi, Tremonti, ma io ho sempre detto che arrivava la crisi. Cosa stava a fare voi? Tu l'hai cavalcato i Forconi, a te ti pareva vero. Sì, dai, lui ha cavalcato il grillismo. Sì, l'hai anche votato. Il grillismo lo hai cavalcato, ha ragione l'intellettuale. Aspetta, tutti quelli che portavano acqua al mulino di Berlusconi, tu l'hai sempre cavalcato. Bravo. Sei solo questa volta. Questi avevano la stessa piattaforma del Berlusconi, cioè che cosa? Contro lo Stato, dimissioni del governo e elezioni anticipate, sono le stesse cose che dice Berlusconi. Cioè sono manovrati da Berlusconi? Secondo me, degli? Dietro c'è tanto disagio, però c'è tanta gente che sta povera. I capi come ma sono? Ma chi i capi? Come figlio sono? Mio, fanno le stesse cose. Come li definisci? Mano, io spero che si siano fatti pagare anticipati. perché da questo floppa questo non gli dà più una lira. Antonio Pennacchi, buonasera, come stai? Stavo bene prima di venire qua. È qui solo per un motivo. Certo, no, ma dopo io lo sono diciamo. Venuto solo per, sì, solo per promuovere il per mio fare libro. La marchetta di cui non parleremo. Aspetta, perché da tutte le fregnacce che me le dici tu, a me mi frega niente. Della storia di. Il libro si chiama Storia di Care. Vabbè, aspetta, dopo cioè, abbiamo tempo. Fammi sentire un altro Calvani. 18:50. A un certo punto si è rivolto a padre Papa Bonpiè. Francesco. Uno anche di noi ha detto: ah, dai, su, ma è una macchietta, dai, su. Scusate, mi sono ripromesso una cosa: di fare gli auguri e un applauso grande al Santo Padre Papa Francesco. Un grande applauso. Ciao. Uno di noi, uno di noi, uno di noi. Francesco, Papa Francesco dovrebbe essere uno dei forconi. Per quale motivo al mondo? Me lo spiegate o no? Stai calmo un attimo. Aspetta. Dietro perché devi parlare quando non te lo dico io? Me lo spieghi? Vai chiamarlo. Che fai quando dici tu? Ti invitano a cena, mangi solo quando ti dice il padrone di casa, ma mangi e mo non mangi. Ma invitato, questo è casa, sono io il padrone, poi è casa mia. Allora devi pigliare questo coso. Comunque è delle parti tue, Galvani. Beh sì. È delle parti tue. Vabbè, sta in Agropontino. Sta io in però sono figlio di Veneti e ho fatto la bonifica. Lui è figlio di Sermonetani, stava sopra, sopra la montagna. Sono due cose diverse. Ma come lo definisci? Un capopopolo? Ma ha venature fascistoidi o no? Linguaggi, guardi, forconi, io non lo so, io forconi. Ma io ci ho parlato una volta sola qualche anno fa. Sì. Allora? Mi chiese di parlarmi, sì. Che te devo dire? Non ha il dominio della complessità. Questo è bellissimo. Il dominio della complessità. Capire che la realtà è complessa. Ha l'istinto del capopopolo. E io gli dissi: tu il carisma ce l'hai, però ti mancano gli strumenti. Le basi. Io prima di rimettermi, studia. Prima di mettermi a scrivere, ero operaio, sono andato all'università, ho studiato. Dico, tu mettiti a studiare. Vai alle scuole serali, ripieti almeno un diploma. Fanno cazzo. Ripieti un diploma e cerca di capire. Noi meglio perché di questa se no, beh, perché, molto, è molto gramsciano perché, no, questo, se, no, se tu ti vuoi fare dirigente del popolo di massa devi avere anche gli strumenti, non basta il carisma, il talento, occorrono anche gli strumenti intellettuali per capirla la realtà. Comunque, altrimenti resti una ruffa popolo e basta. Hanno tutti i problemi questo col fisco, hanno tutti i problemi col fisco, questi qua. Equitalia, carta esattamente. Allora aspetta, ci sono un sacco di gente poveraccia. Ci sono gli operai in cassa integrazione, gli esodati, sul disagio di questi fuori discussione, anche sul disagio del piccolo imprenditore. Vabbè, poi, però, ma che c'è? Mannaggia la puttana. Ma che però se. Chi è tua moglie? Chi è? Che ne so, mo' spinto. Renzi, chi è? No, Renzi non mi chiama, non ti preoccupare, state fariamo dopo. Fammi finire il ragionamento. Che cazzo mi ha chiamato a fare? Se rompi sempre. Però è bello. Fammi parlare. Sì, dimmi. Dove stavo? Mi sono scordato. Stavo a dire, che voglio dire. Devi andare a studiare. Ci sono tante brave persone, eccetera, però ragazzi. Questi dicono i sindacati sotto, basta con i sindacati. No, questi perché però aspetta, noi ci sono parecchi operai, ci sono parecchi questi. Alcuni imprenditori che pigliavano gli operai e non gli pagavano i contributi. Poi gli sono arrivate le cartelle dell'Inps, certo. Dice no, ma non voglio pagare, è colpa dello Stato, andate via, ladroni. Pagate, pagate l'operai, pagagli i contributi. Questo è vero. Squinzi ha detto che sono comprensibili queste cose qua, che sono hanno presente la Confindustria. Ha detto si è messo bisogna capire le ragioni dei forconi. Okay, il presidente della Confindustria intanto gli dicesse ai suoi di pagare i contributi, di non evadere il fisco, eccetera. Che quando vadi, perché ci sono molti imprenditori che evadono il fisco e non pagano i contributi. Non lo so, però Squinzi che fa? Fa i miscelati per gli intonaci. La chimica, che chimica? Insomma, la chimica. Fa il farcimento, gli intonaci. Viene a lavorare nell'edilizia, chiede digli a Squinzi che andasse a controllare nell'edilizia, però non si lavori più in nero. Vabbè, non è che controlla Squinzi, il suo lavoro lui controllare la sua fabbrica lui è il presidente della Confindustria, controllasse che sui cantieri stesse tutto a posto, non ci fosse il lavoro nero, eccetera. Non è che può andare nei cantieri lui a controllare se c'è il lavoro nero, però tu non puoi venire a rompere i coglioni al prossimo se tu sei il primo che contravverte le regole, perché qui diamo sempre la colpa i politici. Sì, i politici hanno un sacco di guai, però tanti ce n'ha anche tutto il resto anche la società. Senta a me, cioè tu dici non può rompere Squinzi, non può rompere milioni. Squinzi pensasse a far dovere suo prima di tutto mettesse a posto, ma chi se ne frega di Squinzi, io lo conosco Squinzi. Il nostro editore non è che puoi venire qui a mettere i piedi il nostro editore, che cazzo me ne frega a me, mica il mio, ho capito, ma ci vuoi far cacciate però, scusa Pennacchione, adesso che sei scrittore ricco vieni qui a far diventare proletari due come noi, a parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due non vi farebbe manco male, ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano. Ma io non ce l'ho in cantiere, io col cazzo. Io vorrei vedere qua dentro quanti ce ne stanno con i contratti a termine, portate, lascia aperte. No, non ci stanno. Tutti fissi. No, qui assumono tutti. Li piate, li cacciate, ma lascia aperte. Qui è nel dorato, amico mio. È il dorato vostro, nel dorato. Ma alla fine che vogliono questi qua? Questi forconi che vogliono alla fine? Fa casino e basta. La loro proposta era quella, le dice vabbè allora dimettetevi le elezioni e non, No, questo è, e questo Ramus è diventato governativo anche. No, lui non è prepolitico, è diverso. No, sono lui... questi sono non fascisti, sono sfasci. Cioè, sfasciamo e basta. Allora, io quando io stavo in fabbrica, pure noi facevamo le lotte, gli scioperi, pure duri, i picchetti, ho fatto a botte con la cella, anzi la cella ci menava a noi. Ma perché? Perché magari volevamo avevamo delle proposte concrete che volevamo dal padrone, voglio la mensa, voglio l'aumento, eccetera. Questi qua ci parlano. Ma c'era il padrone davanti. Quando c'è la fabbrica nostra andò in crisi, facemmo le lotte invece rispetto al potere politico, perché il ministro dell'industria ci rifinanziasse, ci trovasse un altro padrone. Ma tu, se fai delle richieste, ci devi avere chi ti risponde. L'interlocutore. No? Se tu invece dici no, andatevene. Vogliono la giunta militare. Chi ti risponde? Dicono ma chi che va a fanculo a te la giunta militare? Su, ma siamo seri, no? E questo ti risolve i problemi. Devo dire che su allora, questo se loro volessero davvero qualcuno che gli risolve i problemi, e qui dovrebbero mettersi coi cartelli scritti Lenta, Letta, Renzi, sbrigatevi. Alfano pure, cioè pure perché, Alfano, ma soprattutto Letta e Renzi se devono sbrigare. Alfano Alfano è il ministro degli interni. Oh, allora se è il ministro degli interni che comandasse la polizia, però conta un cazzo Alfano. Dimmi, no, il problema è questo. Dimmi se contano Alfano. Ma che ne so, che no, è importantissimo invece, perché se non ci fosse Alfano sto governo non si potrebbe reggere. E tu non potresti tentare... Ma è pragmatico, se, comunista, no, pragmatico. Comunista. L'unico modo di essere veramente rivoluzionari è quello di essere rigidamente riformisti e farle davvero le riforme. Allora questo paese sta dentro una crisi che è più grossa di lui, perché viene dal resto del mondo, eccetera eccetera. Ma tu rispetto al resto del mondo ti sei trovato handicappato, non sai come uscirne, perché hai i ritardi del sistema politico. Quindi è necessario agganciare la ripresa, e sono sicuro. Ma perché che te fanno ministro a te? Ci ma che me fanno? Perché, perché per far politico anche quella è un'arte. Devi saper mediare con la gente. Ma non sei meglio Teo Gasparri, sei meglio Teo Gasparri. Un politico. Sei meglio Teo Gasparri. Non fai niente per dire, per dire. Ma è una simpaticissima persona. Ma quello sicuro. Quando non mi frega un cazzo dei Gasparri, ma che mi importa. Ma sei meglio te dei molti ministri che ci stanno o no? Dimmi la verità. No, come ministro no. Perché un ministro ci deve avere pazienza, deve discutere. Tu non hai pazienza. Io a me già qua mi interrompi una trota, già mi viene voglia di menate, come posso fare il ministro? No, il ministro deve conciliare, deve fare. Traffico, torniamo subito. Poi soffro del cuore. Storia di Karel, lo dico io. No. Storia di Karel. Bonpiani. Bonpiani. Bonpiani. Se no, un libro di fantascienza di Bonpiani. Bello, da ridere, divertenti. Però parla pure di decrescita, sviluppo. Ma non ce ne frega cazzo. Ci importa della storia, ci importa della storia. Cioè, chi è Karel? Karel è uno dei personaggi, si cimenta per la prima volta con un libro di fantascienza. Ma quanti soldi hanno dato per scriverlo? Quanti soldi hanno dato d'anticipo? 50.000. Ma no, ma 50.000 d'anticipo. Senti, a te quanto danno a fine mese? Ah, una robetta. E anche a me una robetta. Anticipo 50.000. Una robetta. 100.000 d'anticipo. Ma fatti i cazzi tua. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Ancora il casino. Beh, sì, senatore Dell'Utri, finché non ci cacciano dopo questa intemerata di Pennacchi sul su Squinzi, che noi difendiamo ovviamente, che noi difendiamo perché non c'entra niente. Certo, ha detto che le ragioni dei forconi sono da ascoltare, questo ha detto. Comunque, sentiamo un po' di voci dalla piazza di oggi, dai, un po' di voci interessanti dalla piazza di oggi. C'era uno vestito con una mimetica militare, un tale Enrico Leoni. Sì, Enrico Leoni, sentite. Tipo Tognazzi. Dai. Forza! La mia mimetica ovviamente è un fatto di comodità, perché stare in jeans dormendo sull'asfalto è chiaramente scomodo. Ma è una battaglia la vostra scomodo. Stamattina, è una battaglia la sua che si veste in jeans. Sì, divisa. Questa è una vera e propria battaglia, ecco, questa è una battaglia contro le banche internazionali, se proprio vogliamo, quindi se proprio lo vogliamo leggere in questi termini è molto più accettabile. Una battaglia contro le banche internazionali, non si può sentire, dai, ma anche Grillo, poi sentiamo su Grillo, sentiamo. Beppe Grillo purtroppo ha creato un movimento con dei massoni. Ha creato un movimento associabile a questo con dei massoni, ecco, i massoni ci mancavano. Con dei massoni, ecco, massoneria, ecco, una cosa che andrà eliminata anche dall'Italia. Beppe Grillo la dice, è massone, Non c'è. Va bene, ho capito. Beppe Grillo, avendo creato un partito con un massone, sarà massone anche lui, sono cose sue, insomma, non lo so, non forconi, ci interessa a noi. I forconi. Poi uno dice tutti a fare in culo, così, tutti a fare in culo. però questo governo abusivo deve andare a fare il culo. Scusa, chi si vota? Ognuno poi vota quello che cazzo gli pare. Però sono gli stessi partiti, quindi risiamo contenti. No, i Letta, i Renzi e compagnia varia debbono andare, guarda, Renzi a fare il culo. Beh, ragazzi, dai, insomma, adesso va benissimo tutto, lo scherzo, il gioco, però non si possono prendere sul serio questi qua. Ma se tu è il partito che hai votato, ma per mesi, con questa roba, per mesi avete raccontato che tutti dovevano andare a fare il culo, ne ha fatto un manifesto politico Grillo, sei responsabile anche tu, ha ragione Pennacchi, allora, di questa roba. Un attimo, prima di tornare da Pennacchi, tutto finito perché c'era anche Davide il Vichingo. C'era? Lei conosce il signor Pennacchi, il Davide il Vichingo? No, non lo conosco. Mai coperto. Davide il Vichingo. Dai, Davide, che sei andato a fare con i forconi? Dai, sentiamo. Allora, noi siamo un movimento estremamente pacifico e lo dimostriamo anche oggi. Per quanto tanti giornalisti hanno raccontato che qui a Roma sarebbe successo di tutto di più, violenza di ogni genere per colpa di movimenti di estrema destra o di estrema sinistra, queste sono le classiche bufole mandate dal regime, mandate dal sistema per non dire la verità al popolo italiano. Siamo qui, la Zanzara, 800240024 con Antonio Pennacchi, mitico scrittore dell'Agro Pontino, settore di successo, persona che non ha peli sulla lingua, per questo ci piace, però il tuo Cooper l'ho perso, mo salti sul carro di Renzi. Dai, sei salito pure tu sul carro di Renzi, dai, ti piace. Aspetta. Renzi o no alla fine? Io ho votato Cooper, a me Renzi non piaceva, però il principio della realtà significa che tu che devi prendere atto di quello che è reale, allora... Ma che c'ha che non ti piace? Che continua a non piacerti? Che c'ha? Ma no, è che io vengo da un'altra formazione, una formazione marxista, lui no, però insomma pare che speriamo che legga almeno un libro mio. Ma, insomma, vabbè, quello gliel'hai mandato? No, se andasse a comprare, abbi pazienza. però scusa un attimo. Però voglio dire, ci sono dei nodi nel sistema politico che sì, vanno. Perché che cosa non ti piace di Renzi? Io questo, a parte il fatto della cultura, no, cioè, che non ti piace? Il fatto che è un po' Berlusconi. È di destra. No, non ti piace. Ma non è che non mi piace, ma mi piace, ha vinto il segretario. È il tuo partito. Segretario. In più, ma soprattutto è l'unica carta, l'unico cavallo da corsa sul tappeto. Che può battere, non siate che può battere, che può imporre un cambiamento. Secondo me farebbero bene a votarlo tutti, destra e sinistra, perché è l'unico cavallo che si muove per il cambiamento. Non pigli il 100%. Aspetta, quello è Grillo che può pigliare il 100%. Scusa. Vabbè, volevo parlare di cose serie, vuole fare battute. Senta, il paese è bloccato non solo da 20 anni, ma anche da prima, per tutta una serie di guasti che ci portiamo dal vecchio sistema parlamentare. Sul proporzionale, fatto dei veti incrociati, non si può fare ci niente. Ci vuole l'uomo forte. Che se l'uomo forte nel senso che uno che comanda. Ma non ci vuole l'uomo forte, l'uomo forte poi ci ha portato alle guerre, lascia perdere. Ci vuole un sistema politico, sì. Un sistema istituzionale che garantisca l'efficacia diretta. Comunque, di quello che si decide. Grillo e Renzi. Ti faccio un esempio. Se vuoi cazzeggiare, basta. No. Cazzeggiamo un po'. Ti faccio un esempio. L'autostrada da Roma Latina, la Pontina, sono 20 anni che si discute se farla o non farla. E non si fa perché? Perché mo si cambia il progetto, poi arriva il comitato. Poi arriva il comitato del Borgo. Del Borgo che dice no, qui ci passa l'Ubupa e non lo fa. Sposta da qua, sposta da là. È il sistema dei veti incrociati. Non c'è dubbio. Qui o noi siamo d'accordo tutti o non si fa niente. Allora è necessario modificare il sistema, che ci sia un sistema elettorale. Che poi chi vince comanda per 5 anni. Allora, questo pure Berlusconi lo diceva, sempre detto pure Berlusconi. Solo che lui voleva essere lui il presidente della Repubblica. Certo. Comunque, d'accordo, senti un po', lo diceva Berlusconi, era l'unica cosa giusta, una delle poche cose giuste che diceva, ma che poi non ha fatto. Quello in 20 anni diceva che faceva l'autostrada, faceva la Salerno Reggio Calabria, non ha fatto un cazzo. L'unica cosa, l'unica azienda che doveva fare i nuovi occupati, i milioni di posti di lavoro, l'unica azienda che ha sanato sono le sue e basta. Ma ti dispiace un po' che uscita dal Senato Berlusconi? Dimmi la verità. No, secondo me mi dispiace che ancora non l'hanno messo dentro, perché non può andare dentro per limiti di età. Allora è andato, senta, a me in questo ma lo vorresti vedere veramente in galera? No, io voglio che la democrazia significa legge uguale per tutti, solo i poveracci vanno in galera. Infatti allora i domiciliari e i servizi sociali mandatelo dove pare, però basta, no, continua a prendere. Lo prenderesti a casa tua lì, ma no, io ma c'erano tante lui da casa, perché devo andare a casa, te lo io a casa sua. Beh, perché dimmi che non vorresti averlo una sera a casa tua a cena, dai. Ma no, no, ma no, almeno, ma perché no? Ma almeno l'interesse culturale di conoscerlo. Ma sei un giustizialista, vuoi in galera Berlusconi, ma sei una vergogna. Ma no, sei tu che sei stronzo, e questo è vero. Questo è vero. Fammi parlare. Sei il capo dell'opposizione. Chi se ne frega? E mo perché sei il capo dell'opposizione, tu puoi parcheggiare sempre in sosta vietata. Poi arriva il vigile e ti fa, no, fammi finire. Poi se arriva il vigile e ti fa la multa, dici no, vaffanculo, il vigile è comunista. Ma vaffanculo, questa è una vita che parcheggiato cazzo io per lui, in mezzo alla strada, sopra il marciapiede, dentro casa dell'altro. Poi arriva il vigile e dice, il vigile è comunista. Ma vaffanculo, e paga le multe. Oppure parcheggiato, l'hai fatto, hai parcheggiato male, ma paghi la multa, non rompi più coglioni. E andiamo avanti. E cambia. Perché tu ridi, no, cioè, ma rido per la metafora della macchina. Sono vent'anni che stavo in mezzo al guado, non ne usciamo. Bisogna uscire dal guado. Ho capito. Fammi parlare. Bisogna costruire un sistema politico che consenta a te certezze. Chi vince, vince per 5 anni di governare. I giudici non vogliono mandare gli unici che sono in questo momento in grado di fare questo, sì, e soprattutto cambiare il sistema politico e agganciare il treno della ripresa, ancora con perché ripresa. C'è la ripresa economica in tutto il mondo, c'è una ripresa in Europa. No, io sono uno storico e ho studiato pure l'economia, mica sono ignorante come te che stai qua a distrozzare la radio. Allora, ascolta, io credo però... che se noi agganciamo la ripresa, no, ma non agganciamo nessuna ripresa. Io credo che questo io sia. Io ti ho chiesto perché non voglio. Fammi parlare. Io credo che questo sia. Ma vaffanculo a te, Beppe Berlusconi. Ma i giudici non vogliono che vada al vertice del Partito Popolare. Non gli danno, non gli danno permesso di andare fuori. Ma chi se ne frega? Ma senti a me, ma secondo te. Ma secondo te in America a Nixon, dopo che l'hanno scoperto, gli danno la presidenza di che? La presidenza di sto cazzo gli davano. No, abbi pazienza. E non stiamo a fare i ponti, no. Hai parcheggiato male. Resta con noi, resta con noi. Parcheggiato male, ancora come dice parcheggio. Il vecchio proverbio, tanto va la gatta all'ardo che ce lascia lo zappino. Pacchete, mo che l'hanno chiappato e tradito il culo, ma che vuoi da me? Vuoi sfasciare il paese? Te ne alimenti i forconi, questo è andato in Francia di se mi cacciano a me arriva la rivoluzione, abbiamo il telegiornale, abbiamo il cinegiornale ora, il cinegiornale. No, rimani qui, rimani qui. David? Sì? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Sì, caro Mughini, sempre dopo di te, caro Mughini. Sull'erba batto spesso in cui si scori, non voglio farti fredda, ma troppo inizia la festa. Siamo qui, la Zanzara, riprendiamo. Riprendiamo come? Con Pennacchi, che è qui sempre. Sì, signor Pennacchi. C'era un coretto oggi durante questa manifestazione dei forconi, questo flop clamoroso, diciamo la verità, questo flop clamoroso dei forconi con 3.000 persone a sbandierare lì, un flop pazzesco dei forconi. C'era un coretto, giornalisti, figli di... Sentiamo. A tutta la stampa locale è uscita una notizia che in questa piazza abbiamo incendiato una macchina. Non è vero! Giornalisti figli di puttana, vabbè, ognuno si diverte come si diverte. Sembrava un coro da stadio, una di queste cose qui. Io voglio sentire ancora una volta questo Calbani, che abbiamo avuto anche ospite qui alla Zanzara, per carità. Non è che abbiamo fomentato i forconi noi, caro Pennacchi, non abbiamo fomentati manco per si niente. Si sono fomentati da soli, diciamo. Siamo sempre stati contro i forconi, vedo? Sentiamo di nuovo dal palco dire noi italiani veri, loro parassiti. Salve popolo italiano! Italiani veri, questi, noi siamo italiani veri, siamo di fronte a un momento storico particolare, la classe dirigente formata da parassiti, mafiosi, corrotti, delinquenti, sta distruggendo il nostro paese! Su ragazzi, ma è una roba ridicola. Se fosse spostato da Piazza Popolo a Piazza Venezia, ecco. Dai. ministro Cancellieri questa mattina da Alessandro Milan dice: con l'Igresti forse ho commesso un'imprudenza. Toglierei il forse, una piccola imprudenza. Toglierei il forse. C'è stata forse un'imprudenza, può essere stata un'imprudenza, perché ho preferito, cioè come ministro forse non dovrebbe lasciarsi andare a sentimenti, ma comunque non c'era nulla di nulla. Forse un'imprudenza, un ministro non dovrebbe lasciarsi andare ai sentimenti. Non c'era solo il sentimento però, caro ministro, c'era tutta una cosa. Vabbè, titoli del TG3, poi torniamo con Pennacchi. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Intervista diretta al TG3 sulla manovra troppi processi alle intenzioni, per il lavoro ai giovani pronto a cambiare, sulla legge elettorale massimo consenso possibile. Legge di stabilità in aula alla Camera, domani il voto, probabile il ricorso alla fiducia, sia al fondo taglia cuneo fiscale e alleggerita la tassa sul web. Legge elettorale, Renzi riforma subito ma non ho fretta di andare al voto, Alfano anche noi la vogliamo subito ma con un rapporto politico leale. Urla e cori da stadio per il sit-in dei forconi dimezzati. In piazza sono solo 3.000, c'è anche Casa Pound. Dall'altra parte di Roma, il corteo per i migranti. Rimossi i dirigenti del centro d'accoglienza di Lampedusa dopo le immagini di migranti in fila nudi e l'Unione Europea minaccia sanzioni all'Italia. Negli anni 80 era conosciuto come il serial killer delle donne. Si è dileguato dopo un permesso premio, Bartolomeo Gagliano, pluriomicida di Genova, abitué delle evasioni. E Putin ottiene dalla Duma l'approvazione di un'amnistia per i 20 anni della Costituzione russa. Per alleggerire le polemiche sulle Olimpiadi invernali, saranno liberi gli attivisti di Greenpeace e le Pussy Riot. Allora, devo dire una cosa. Gasparri oggi spiega perché ha fatto questa polizza vita. Questa polizza vita, 600.000 euro, di soldi nostri, del contribuente, che poi lui ha restituito un anno dopo. Gli sono stati restituiti 610.000 euro. Sai che dice David Gasparri? Dice: me l'hanno consigliato quelli della banca. Cioè, uno arriva, ti consiglia di fare con i soldi non tuoi una polizza vita per te, per i tuoi eredi. Non so, così uno dice: beh, me l'hanno consigliato. Credo che la banca non so questo deve fare, deve consigliare, ma come capito, investire i soldi, ma non sono suoi. Ma perché bisogna fare una polizza vita con i soldi del contribuente? Io non voglio, voglio capire una cosa da Pennacchi: perché adesso è salito pure lui sul carro di Renzi? Mi sembra che sei molto favorevole, sì, a Renzi. Tu sei No, io sono favorevole ad una, ad un'accelerazione del paese. Sono convinto dell'assoluta necessità di agganciare la ripresa, vabbè, perché si può ripresa. Fare perché questo può essere l'ultimo Natale di crisi, l'ultimo Natale vabbè, di crisi. Questo... E questo, oh, se tu la portagliella, portala. Ma che io invece che sono convinto che come sta ripartendo l'Europa possiamo ripartire anche noi. Sì. E nel giro di un paio, due, tre anni rifare un nuovo boom, cambiare la classe dirigente, un nuovo sviluppo economico. Tanto vuole fare per di fare nuovo, questo. Vuole fare sentite. Fuori D'Alema un'altra volta, sentite. Vuole fare fuori D'Alema dalle elezioni europee. Sentite. Tu sei d'accordo? Io chiedo agli agli ascoltatori, chiedo scusa, ma di che cosa? Per aver ceduto prima. Ma è colpa di questi due stronzi che provocano in continuazione. Scusa, Renzi. Fammi venire un ragionamento. Ma l'hai già detta sta cosa. Ce n'è un altro. Ma non è che se ne ce n'è un altro. Questo è l'unico cavallo che sta in corsa. Cosa? Ma io lo voterei domani. Renzi e Letta sono gli unici cavalli in corsa. Il problema è che qui c'è una corsa da fare. Ancora c'è una scorsa. Sì, vabbè. Perché sì, vabbè. Senti, in 20 anni non l'hanno fatto. Adesso è il momento che si può fare, cambiare il sistema elettorale, soprattutto il sistema di decisioni del paese, l'assetto istituzionale. Vabbè. E questo può garantire che se decidi di tagliare una spesa, lo fai. Se decidi di fare un investimento, lo fai e diventa lavoro. E questo può favorire il nuovo boom economico. Sono cose che questo paese è riuscito a fare in passato. Quando? No, ti dico, negli anni 30 siamo riusciti a diventare da un paese poverissimo un paese industriale. Ma c'era esatto. Il fascismo, c'era. E poi quello si è rovinato tutto con le guerre, ma negli anni 50 e 60 venivamo c'era il fascismo quello però quelli modernizzarono il paese, poi il Parlamento non contava nulla, ma c'era la dittatura, studiate un po', sì, però fecero le bonifiche e l'industrializzazione del paese, certo, e lo stato sociale, è facile, poi se me devi far parlare, poi se rovinarono tutto dichiarando le guerre, le leggi razziali eccetera, ma pure prima se rovinarono tutto, senti, studiate un po' di storia. No, ma io l'ho studiata la storia. No, non l'hai studiata. Rivai a scuola serale. Cioè, il fascismo ha fatto le cose buone. Il fascismo ha fatto le cose buone. Ah, e certo, alcune cose buone. Ma il Parlamento non contava un cazzo, come diresti tu. Esattamente. C'era il Minkul Pop. Ma scusa. Oh, la pure in Unione Sovietica. Cioè, per modernizzare ci vuole soltanto una. Solo le dittature sono in grado di modernizzare, questo stai dicendo. Anche le democrazie, guarda, anche lo sviluppo capitalista dell'Occidente è stato pagato da qualcuno, hai capito? Anche le democrazie. Hai fatto apologia di fascismo. Anche l'Inghilterra, per fare la rivoluzione industriale, mandò i bambini. Ma lì si sa chi governa e chi governa, governa per 5 anni, no? In Inghilterra. Questo c'è, non è che c'è uno che cade, l'altro. Se voi mi consentiste di finire di parlare, ti direi che dopo la seconda guerra mondiale provocata dal fascismo, dopo il disastro provocato dal fascismo, vabbè, questo meno male, l'unione di meno Democrazia male. Cristiana e anche con i comunisti, anche certo, con i comunisti, diglielo a quel signore lì, signor Cruciani, guarda sto stronzo, con i comunisti, che succede, costruirono il nuovo miracolo economico, vabbè, siamo diventati la settima potenza mondiale, economica mondiale, è una cosa che possiamo rifare anche intanto oggi. Intanto i Marò sono ancora in India, intanto i Marò sono ancora in India, no, io dico perché non si risolve niente, non c'è decisione, i Marò sono ancora in India. Il tuo amico lei è il presidente del consiglio che è eletto. Ma senti, non fa quello che sui Marò già litigammo allora quando io ti dissi che per me, per liberare Marò, gli dovevamo sequestrare noi un paio di dirigenti in Australia. Quella era una follia, quella era una puttana. Non voleva venire a fare il duro e puro con me. No, perché lascia perdere. Parliamo di cose serie. Io credo che la ripresa è a portata di mano, perché c'è nel resto d'Europa e c'è nel resto del mondo. Se noi lo agganciamo, con sta ripresa, gli unici che sono in grado di farci agganciare questo treno, di far ripartire. Togliamo il finanziamento pubblico dei partiti, togliamo il finanziamento pubblico dei partiti. No. Togliamolo subito, via. Vedi tutti, che sei uno stronzo peggio dei fortoni, perché uno sta di una cosa e tu te ne esci con le cazzate. No, ma questo è importante. Che me frega a me? Questo invece ci vuole un po' di finanziamento pubblico. Secondo me questo però è un altro discorso, no, io sarei pure a favore del pensa a favore del finanziamento pubblico dei partiti, bravo, la democrazia ateniese, dove nasce la democrazia, ad Atene, ti dice che non può essere che facciano politica solo quelli che hanno i soldi, ma anche adesso fanno l'unico modo di dare mia papà non capisci proprio niente, peggio, ma va senti, ma che stai a fare, ma perché stai qua, il popolo pure tu va a culo insieme a loro, no, allora su questo ha ragione Pennacchi, però scusa, via il finanziamento pubblico dei partiti, via, no, togliamo non tutto, togliamo più. Tutto. Perché? No, perché se no veramente non ce la faccio più a controllarmi. Ma perché? E poi arriviamo alle vie di fatto. Via il finanziamento unico dei partiti. Ma via, chi se ne frega? Intanto però, via, verso partiamo verso lo sviluppo e il nuovo boom, perché il paese ha bisogno di ripartire. Perché ti sei fissato col boom? Perché ti sei fissato con questo boom? Perché ci stanno, perché amico mio, ci stanno siamo con le pezze al culo, perché ci stanno un sacco dei figli dei miei amici che sono costretti a partire per l'estero. Il boom, lo sviluppo economico, se tu lo vuoi costruire, io sono d'accordo con te, voi siete due stronzi, no, perché due, uno lui, rendete conto che c'è un sacco di gente senza lavoro, questa gente che parte all'estero, allora bisogna far ripartire questa spinale. Grillo, Grillo dice intanto restituisci i soldi Grillo è un altro stronzo come te, perché intanto cominciasse a restituire pure lui. Cosa? Tutti quelli che ha guadagnato e che perché restituire? Su questo fa lo stramiliardario speculando sulla povera gente, poi gli dici famo questo, no, non lo voglio fare, andatevene tutti e poi lo faccio. Il governo col PD non l'ha voluto fare, dai soldi, mo la riforma elettorale, Renzi, dai soldi. Eccoli qua. Già Renzi l'ha messo sul tappeto, mo lo vuoi fare la riforma elettorale? Vabbè, ma è che... No, allora vai a fare il culo, sei un buffone, peggio di Grillo pure tu. Allora, Vabbè. Prendiamo fiato, storia questo di Carel Bompiani. Sto paese è un tram che si è fermato. Sì. Per ripartire, vabbè, un conducente ci vuole. Voi l'avevo trovato il conducente. I conducenti sono Letta e Renzi. Ma tu hai votato lo so che a te non ti piace, perché a te ti piace ancora quell'altro de conducente, Berlusconi. Ma quello ci ha portato a sbatte, caro il mio Cruciani. Bravo, menalo, bravo, bravo. Senti, non ti abbiamo chiesto un commento su Dudu. Ti abbiamo chiesto, ma vaffanculo a te Dudu, per piacere, no, ti abbiamo chiesto un commento. Pure io a casa mia c'ho avuto i cani, ma sono cani grossi, no, non cani, ma vaffanculo a te Dudu, ma è un barboncino tanto simpatico, è amorevole. Sai cosa ha detto signorini di Dudu, te lo facciamo che gay, ha detto che è gay, tutto il massimo rispetto, ma tu il matrimonio gay sei d'accordo con il matrimonio gay? Io sono d'accordo che abbiano pari diritti. Matrimonio no. Non è pensabile che se uno è malato la gente poi non ti impedisca di stare lì in ospedale. No? Allora, non lo so, mi sta bene la proposta di Renzi. Vabbè, ma te sta bene tutto, Renzi, perché... certo, perché l'oggi è l'unica possibilità che c'è. Oggi per essere veramente rivoluzionari devi essere riformista e renziano. Dammi un bacio. Io sarai gay tu, io no. Fattelo da Cruciani il bacio, no. Da Cruciani. Ma, scusa, se vedi due gay. Anzi, trova, va a cercare Dudu e fatti dal bacio da Dudu. No, però sai che l'unica, prima di salutarlo, ma la cosa... No, ma io non voglio parlare del libro mio. Storia di Karel Bompiani. Ancora Karel, è una storia di fantascienza, ma è una storia di fantascienza. È latino, è l'agro pontino portato nell'universo. Bompiani. Ai confini dell'universo, è la lotta fra decrescita e sviluppo. Ancora. Invece sono un sacco di personaggi. Lo sviluppo, lo sviluppo. Mica sono iettatore come questo. Ciao Antonio, presto. No, ma non ho capito. Aspetta, ma non ho capito perché non vuoi Berlusconi. Ma non ho capito perché veramente. Mi pare che tutte le volte che commenta la Roma o per te o pareggiamo. Dite agli Ascai che ce levano Bergomi dai commenti alla Roma. Un attimo, borsa. La zanzara. È molto effeminato, è un cane, cioè secondo me è gay, io lo sostengo da sempre, affamato di ribalta, vuole tutte le copertine, cioè quando ho visto Putin non gli pareva vero, è stato lui ad avvisarmi per aver di farsi fotografare per avere la copertina, hai capito? Il mitologico Alfonso Signorini che dice che Dudu è omosessuale. Senti, la cosa... Pennacchi, ma anziché scrivere la storia di Karel, non potevi scrivere la storia di Dudu? Cioè guarda che guadagna tutte le prime, non c'è mai pensato a scrivere la storia del cane Dudu? Vabbè, no, mi interessava sta cosa della Roma che hai detto prima, no? Ma perché Bergomi se ne deve andare via? Scusa dal commento. No, perché tutte le volte che commenta lui la partita succede qualche cosa, cioè, gufa, capito? Tu lo capisci perché gufa? Perché gli stava antipatici, gufa, non lo voglio più sentire. Non vuoi più, allora appello ai vertici di Sky, fate fuori Bergomi. No, gli facessero commentare il Milan, la Juve, a noi ci facessero commentare da Boniek, da Abruzzo, Tanto sta da 5 punti. Non ti preoccupare che ve richiappiamo. A chi? La Juventus, dici? Ma che richiappi? Brutta zebra. Ma che zebra? Te devo una zoppa. Comunque oggi il tuo amico Renzi te deve chiappare Dudu e mozzicatta alla gola. Ma quale è la gola? Tanto hai fatto apologia di fascismo prima, perché hai detto negli anni 30 si sono fatte delle cose positive. Vergogna. Negli anni 30 sì, si sono fatte anche cose positive. Vergogna. Che cose positive c'è? Poi si sono fatte anche quelle negative. Comunque lasciamo perdere, concludiamo in bellezza con Renzi che è andato da Vespa. Enzi è andato a presentare il libro di Vespa insieme ad Alfano, la grande novità, no? Vespa ha fatto benissimo, ovviamente la grande novità, presentarsi con una foto il leader del PD Alfano, la prima cosa che Vespa, fa Vespa Renzi, capito? Ma perché attacchi a ste cazzate? Ma mo secondo te se Vespa mi chiama a me per presentare il libro io non ci vado, ma di corsa ci vado, no? Ma attacchi a tutto, attacchi. Ma certo, pure se mi chiama Dudu a presentare il libro. Ma perché Dudu? Dudu e Signorini e io che presento il libro tutta la vita, dici. Pur di vendere, dici? Quanto ti hanno dato questo storia libro? Di Karel. Ancora, boh, bisogna venderlo. Bellissimo. Non l'ho letto, ma sarà Antonio Pennacchi. Ma tu non hai dei debiti che ho. C'ho un sacco di debiti, c'ho il mutuo da pagare. Al mutuo ancora. Ti sei comprato le case, certo. Perché non te li sei tenuti in saccoccia i soldi invece di investirli nelle case? Perché poi me li magnavo. Ah, in che cose te li magnavi? I soldi ce ne vanno, bisogna mica c'è vizide, ho capito, fai la vita morigerata, cioè, alla Latina. Due soldi, ho comprato due mattoni. A Mignotta non ce l'hai perché c'è la moglie. Droga, non te droghi. Non viaggi, vai vizi tu. No. Non c'hai vizi, no, mi sembra. No. Beh, fumo. Fumo, vabbè, ma è capito, a proposito, nel libro Storia di Karel, qui si svolge che lì è proibito il tabacco. La Federazione Galattica è proibito il tabacco. Bene, ottimo. È tutto lì. E poi invece tre ragazzini, scappando di casa, trovano... delle fogliette di tabacco nel deserto e comincia e riparte lo sviluppo. Lì è proibito pure il petrolio. Ma c'è una un signora invece in questo caso. C'è sesso anche. Storia di Karel, che sesso c'è? Ma come no? Che sesso c'è? Ma sei un pornografo. C'è Karel che va sempre al circo e poi quando finisce lui gli piacciono i trapezisti. Quando finisce lui va, perché lui arriva al circo ogni tanto su sto pianeta. E quando finisce il numero della trapezista, specialmente se c'ha le calze bucate, perché lì arrivano i circhi scalcati. Lui va dietro il tendone e poi si avvicina e dice: scusi, possono fare comodo 30 crediti? E spesso gli fanno comodo e allora lui lì gliele sfila lui le calze bucate e ci vuole cosa faccio. Antonio Pennacchi, ciao, grazie. Ciao. Storia Antonio. Di Karel. Ciao. Potresti farti una canna ogni tanto, eh? Potresti farti una canna. Te le sei fatte le canne qualche volta? Sì. Da giovane. Sì. Sì. Adesso qualcuno... l'ho pure respirata, non so come ti credo, se no. Ma anche adesso. Da giovane sì, no, adesso. Legalizziamole però, no? Legalizziamole. Ah, io sono assolutamente d'accordo. Oh, meno io male. Credo che ma non solo quello. L'unico sistema per battere veramente è la mafia, la eccetera, eccetera, ma anche il resto. Sono d'accordo. Metti in farmacia e va a fare le ride al controllo mafioso. Giovanardi è contrario. Giovanardi è contrario. Sì. E dica, va a pure Giovanardi. Che se uno non è d'accordo con te, devi mandare in quel posto. Ciao, chiedo Antonio. Scusa a Giovanardi, era sì, stanno provocando loro. Daniele da Milano. Ciao, Daniele. Ciao. Pronto? Dimmi. Sì, ma io allora ho telefonato a voi e devo ringraziarvi perché siete stati gli unici che almeno mi state facendo parlare. Ma dipende quello che vuole dire, allora, Daniele. Non è detto duri, diciamo. Ma no, io sto conducendo una mia battaglia, nel senso che ho mandato una lettera al presidente della Repubblica, al parlamentare, alla magistratura. Ho scritto alle radio, ai giornali. Questa mattina poi ho chiesto anche un'udienza con l'arcivescovo Angelo Scola di Milano. Ha chiesto l'udienza con l'arcivescovo Scola. È impossibile parlare con lui. Ma perché l'arcivescovo dovrebbe riceverla? Qual è il punto? Lo sportello reclame. Allora, io ho detto prima alla segretaria che sono una persona illuminata. Cioè, che vuol dire una persona? Lei è un illuminato. Che vuol dire, scusi, Daniele? Allora, parlare nella trasmissione di tutto quel percorso che ho passato per arrivare... No, ma non abbiamo tempo qui, non abbiamo tempo, non abbiamo tempo. Allora, essere illuminato vuol dire ricevere un dono... Cioè quale? Di poter vedere dal terzo occhio. Terzo occhio, Parenzo, ti prego, pensaci tu. No, facciamo finire un attimo perché non credo alle mie orecchie. Uno, quale sarebbe il terzo occhio, scusi? Quale sarebbe il terzo occhio? Quale sarebbe il terzo occhio? Allora, quella famosa ghiandola pineale che noi abbiamo. Vabbè, ma scusi, noi perché vede lei col terzo occhio? Noi dobbiamo parlare di tante cose stasera. Dobbiamo parlare di tante cose. No, io non capisco perché chiamano qui. Perché lei chiama qui? Perché ad esempio, con tutte le trasmissioni belle di Radio 24? Perché io in questo percorso che ho fatto ho ricevuto l'incarico di portare un messaggio. Ma non lo può portare a Barisoni, ad esempio, il messaggio. Allora, a voi in questo momento non posso dirlo. Qual è il messaggio? Qual è il messaggio? Dovrei parlare con la Chiesa, ma io potrei spiegare, siccome mi sono stati spiegati i disegni, quello che sta succedendo, cosa ha causato tutto questo, perché c'è l'omosessualità, perché la gente non Daniele, ha più... Daniele, sentiamoci in un altro giorno, facciamo così, perché c'è l'omosessualità, per esempio? Secondo lei, riassumiamo in modo sintetico. Allora, Presidente, qual è il tuo scopo della vita su questo pianeta? Il mio? Ma che ne so, io non me ne frega niente. Cioè, non te ne frega niente? Vabbè, amico mio, che cosa vuoi dire? Perché esistono i gay, secondo te? Illuminato, perché esistono i gay? Perché è una prova di vita, è una prova di accettazione della propria personalità. È come se fosse scesa, tra virgolette, un'anima in un corpo, magari un'anima femminile in un corpo maschile. Vabbè, Daniele, ne parliamo un'altra volta, dai. Società... Maurizio da Firenze, fammi sentire Maurizio da Firenze. Maurizio da Firenze, beh basta. Dimmi, Maurizio. Oh, ma che palle, però basta con sti forconi, ci ha fatto tu scaploni. Ma oggi è finita, però Maurizio, ma che vuoi? Ma è finita oggi? 3000 persone. Ma basta, Dio, ce l'hai genate, basta. Pazienza, Dio. Ma non ho capito, ma che vuoi, Maurizio? Ma che vuoi da me? Che vuoi da me? E che vuoi da me? Basta, Dio, Madonna, ragazzi, ero in macchina, porca miseria, te forconi del cavolo, tra poco a sbattere. Ho capito. Che c'entriamo noi, però, non ho capito. T'hanno rotto le scatole anche a te per strada, che hanno fatto? Questi furconi, abbiamo preso gli scafottieri, basta di sta storia. Vabbè, poi, sono quattro matti, quattro debosciati, ma basta, no? Basta. Rauda Catania, Rauda Catania. Buonasera. Come si chiama lei, Rau? Come si chiama, Rau? R di Roma, A di Ancona, U di Udine. Rau, perché Luigi. Che nome è Rau? Beh, no. Rau, c'era l'ex presidente della Germania. Rau. Comunque, allora io volevo dire a quell'amico che ha parlato, tanto simpatico, molto volgare, ma anche molto ottimista, perché diceva che ci dobbiamo attaccare al treno. Ma a quale treno? Che io per andare da Catania a Palermo ci vogliono 18 ore. A quale cavallo? A quale cavallo? Ma lui se l'è fatto un giro praticamente che le persone stanno a morire di fame, praticamente le persone sono tutti senza lavoro, le arance le arance che sono a 10 centesimi al chilo, sul piede, cioè, ma dove dobbiamo andare? Ma quale ottimismo? Noi siamo buoni solo, gli italiani siamo buoni solo per parlare, come faccio io con lei in questo momento. Vabbè. Ma siamo capaci di criticare i forconi che sono lì, anche disorganizzare. Anche, ma, sono ma lei li ha sentiti parlare? Ma qual è la proposta? Che cosa vogliono? Ma cosa vogliono? Cosa vogliono? Ma noi critichiamo i forconi, ma ci facciamo prendere per il culo da tutti i politici d'Italia, cioè ci prendono per il culo. Lei, secondo lei, Berlusconi, Renzi, Letta sono migliori di queste persone? Non hanno. Ma che vuol dire? Non so, io ma dico rappresentano sono... il pubblico, rappresentano il popolo. Il sì, popolo ma chi li ha votati questi qua? Chi li ha votati questi? Scusi, ma chi li ha votati? Ma chi ha votato Renzi? Ma chi ha votato? No, Renzi per adesso l'hanno votato solamente i fiorentini. Qualche milione. Poi vabbè, adesso, vabbè, no, anche adesso che quelli là. Noi siamo buoni solo per parlare. Siamo un popolino anche vabbè, no, andiamo a Enrico da Napoli. Enrico da Napoli, buonasera. Buonasera. Sì, sì, buonasera. Ciao, senti, io voglio dire, insomma, per tutto quello che sta succedendo, insomma, si deve dare atto, insomma, che c'è un malessere a livello nazionale, al di là dei colori politici. Voglio dire, ci sarà un motivo, no? Che insomma milioni di persone, insomma, stanno sono stufi, insomma, di questa. Vabbè, Enrico. Dunque? Sì. E dunque, insomma, la politica ha fallito, veramente dovranno andare via, insomma, noi per quello che paghiamo la politica dovremmo avere, come una dovrebbe avere una Ferrari, dovremmo essere la prima nazione al mondo, siamo gli ultimi in tutto, cioè praticamente 20 anni di politica hanno devastato una nazione, insomma, il popolo l'hanno devastato, cioè, abbiamo avuto quell'imbacilla di Monti, insomma, che proprio nell'ultima partita ci ha dato il colpo di grazia, dai, è un banchiere che praticamente ha fatto solo gli interessi delle banche. Vabbè, Enrico, grazie, buona serata, grazie. La zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue. Grande ritorno alla Zanzara, caro Parenzo, 800 24 00 24, con l'ingegnere Domenico Crispino, marito del ministro Cecil Kyeng. Buonasera. Ciao Giuseppe, mi chiamavi per nome, ti sei già dimenticato? Sì, ma no, ma figurati, nostro Domenico, amico Crispino. Non c'è problema. Ciao David, come stai? Ciao Domenico, caro. Noi bene, siamo un po' preoccupati. No, perché? Per le vicende di casa casa Kyeng, no, insomma. No, quello un po', sì, un po' dispiaciuto. No, cioè questo niente. Natale lo farete insieme o no? Questo almeno si può cominciare da qui, no, diciamo. No, quello lì devo andarci anch'io, ma sai che ho una giunta in famiglia che è un maremmano e sì, non me lo tiene nessuno, se porti il maremmano a Napoli scappano tutti. Cioè tu dici il maremmano è il cane. Ma no? Perché va a Napoli, sì, il ministro? Sì. Ma era già programmata da tempo. Dunque questa cosa qui che voi non passate il Natale insieme perché state per separarvi non è vero? Non l'ho letto perché Vanity Fair io non l'ho letto. L'intervista a tua moglie non l'hai letta. Ma vi sarete parlati però? No. Sì, per Bacco, l'ho sentito l'altro giorno. L'altro giorno? Insomma, non tutti i giorni. Mica si sentono tutti i giorni. No, due giorni fa. Ma come? Una moglie la si sente solo un altro giorno? I ministri si sentono ogni due giorni, ministri, di più dopo. Cioè, perché dici dopo un po' se no ti si rompe le balle a sentire il ministro, cioè un conto il ministro, un conto la moglie. Io non sono poi uno che parla tanto, quindi non è che stia ora al telefono. Poi un periodo, grazie a una bella legge che hanno fatto, che dobbiamo anticipare tutti i rogiti e sono presissimo dal lavoro. Scusa un attimo, ma allora diciamo una volta per tutte, perché sono usciti degli articoli, tu hai fatto un'intervista a Libero, lei si è molto arrabbiata, ha fatto questa intervista a Vanity Fair. No, ma lì c'è il titolo, perché poi se leggi quello che ha scritto Giacomo Amadori... Sì, è tutto corretto? Sì, per Bacco, no, una persona corretta. Il titolo, beh, i titoli sai come sono, no? Ma i titoli non li fa lui, se non fa il titolo. Però a parte buono... questo, scusami Domenico un attimo, la cosa da capire è questa, non perché a noi non ce ne frega niente, figuriamoci, non stiamo lì a rimestare ma anche cose. la gente non gliene frega niente. Però, quindi... allora, vi separate, sì o no? Questo, giusto una risposta così, per chiarire. Ci stanno pensando, dai. No, io non ho... Sì, in due, quindi... Cioè è lei che vuole separarsi? A me non ha detto niente, l'articolo non è, me lo dice, se vuole separarsi me lo dirà. Però sui giornali se, da, su cioè, hai questo sospetto, diciamo. Ma io non amo vivere di sospetti, io sono sempre molto trasparente. Se io decidessi di separarmi, direi, mi separo, ma lo direi a lei, non ai giornali. Certo. No, questo non c'è dubbio. Dunque lei ha fatto male a dire a fare quell'intervista in cui fa capire. Vedere se non l'ho letta, perché Vanity Fair sinceramente non lo leggo. Ma vi sarete chiariti su questo punto? Domenico? Ingegnere? È caduto dalla linea, aspetta. No, ha messo il coso adesso. In attesa, ha spinto qualche tasto, eccetera. Lorenzo da Milano, Lorenzo? Luciani, pronto? Dimmi, caro, dimmi. Mi sono rotto i coglioni dell'Europa che ci insegna sempre tutto. Cioè, su che cosa? Anche sugli immigrati? Sì. Se gli immigrati, voglio dire, non li trattiamo bene, li tengano loro. Perché noi potremmo fare da ponte di appoggio, voglio dire. Che ci dicano qualcosa su questa vicenda qua di Lampedusa, me ne frega niente. Ci ha rotto il cazzo, perché non gli va mai bene quello che facciamo e loro non fanno mai niente. E quindi, sì, quello d'accordo. Che li trattino loro come meglio credano. No, perché ma noi secondo loro non siamo in grado. Allora che lo facciano loro, cazzo. Ma loro chi? L'Unione Europea. Siccome ma cosa vuol dire l'Europa? Si è arrabbiata l'Europa per quello che è successo a Lampedusa. Giustamente ci ha richiamato all'ordine. Perché nei paesi civili, e noi dovremmo appartenere a quel gruppo di paesi non civili, non succede quello che succede nei nostri centri di permanenza temporanea. Li prendano loro. Ma loro chi? Ma capisci l'intelligenza? Ma loro viene a Lampedusa, se li prende, li porta in Francia. Scusi Lorenzo, sarà d'accordo che è una vergogna quello che è successo a Lampedusa con questi idranti di antiscabbia spruzzati addosso a persone nude al freddo, nude. Sì o no? No. Forse sì. Nel contesto, la fotografia non dice niente. La fotografia non dice niente, c'è quell'immagine che il fatto che tutti si siano indignati, tranne lei praticamente, non le fa vedere il sospetto che forse qualcuno ha commesso qualche errore? Quando tutti si indignano non è che per forza bisogna indignarsi. Dire, se anche a destra. Va bene, abbiamo di nuovo l'ingegner Domenico Crispino, era caduta la linea, marito del ministro Cecil Kyenge. Allora, marito, poi chiudiamo con questa storia. Per ora marito. Sempre per ora, David. È sempre provvisorio. Ma noi le vogliamo dare qualche consiglio, siccome abbiamo un trascorso anche noi. Le assicuro che non è una tragedia la separazione. Non siamo comunque, persone che possono dare lezioni. Diciamo. Non è una tragedia. L'amor di Dio, è una categoria quella dei separati, quindi. Non si sta, poi non è che si sta male poi, però dovreste ritrovare, come dire, i fili del dialogo, però rintrecciare i fili del dialogo, ritrovare un senso, no? Perché qualcuno dice, guarda Domenico, fuori dalle righe, no? Qualcuno dice, perché da quando lei è diventata ministro è chiaro che ha messo i pantaloni, no? E quindi la donna che questa è vero, no? Questa è una grande cassata, e l'uomo comune, i pantaloni adesso sono in pantaloni, sono però non ha più tempo, è immersa completamente nel lavoro politico, no, non ha più... quello certamente col fatto poi che il ministro è ancora peggio, in giro tutti i giorni si vede poco. Poi le separazioni costano, lo sai, no? Adesso da quel punto di vista sono favorito io non chiedo alimenti né niente, non devo neanche dare. E per come? Non è più lei adesso, io non voglio niente da nessuno, quindi... Però io voglio, chiudiamo una volta per tutte questa querelle. Io non mi voglio separare, o no? Lo dici o non lo dici, Domenico? Ma io non mi sono mai voluto separare. È lei che adesso si vuole separare? Ma sì, lei, o no? Quando la vedrò di persona ci chiederemo, ma non certo attraverso i giornali. Ma sarebbe una tragedia questa separazione oppure non ci sta? Ma io insomma. Penso no. Per me l'unica disperazione è se uno e non c'è più. Tutte le altre sono cose risolvibili. Ci sono altre disperazioni sul territorio che non quelle lì. Ah, non c'è dubbio. Abbiamo la pubblicità, poi torniamo, parliamo un po' di Renzi. Lo voteresti adesso, Renzi? No, io Renzi, se per tua, io l'ho votato, non ero un bersaglio, l'ho votato sia alle prime primarie che alle seconde. Alle prime tua moglie ha votato Bersani, però sbaglio. Come tutti gli altri. Come tutti, cioè alla fine è lei che è salita sul carro di Renzi. Io ci sono sempre stato, puoi controllarlo sul sito di Renzi, c'è la newsletter da allora io. E dunque è lei che è salita adesso sul carro di Renzi? Ma in quel periodo tutti quelli che erano impegnati politicamente, sì, han cambiato idea. Poi si può cambiare idea nella vita. No, per carità, certo. Un attimo solo che c'è la pubblicità, poi torno con te. La Zanzara. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. I Albertini, quando diceva Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Beh, ed era la comunità gay di Milano che diceva ad Albertini, vieni giù, perché lui non aveva concesso. Perché lui era sindaco della città. Sì. Si presentò alla sfilata in mutande di cashmere. Sì, sì, e allora questo popolo di gay lo accolse così. Però ce n'era un'altra più forte, questa ce l'ha fatta di recente. Abbiamo con noi il marito del ministro Cécile Kyenge, l'ingegner Domenico Crispino. Beh, devo dire la verità, Crispino, lei però non... è vero, non si può fare alla radio. Alla radio non si può fare, e forse non va fatto nemmeno sui giornali. Però il sospetto che sua moglie si voglia separare un po' c'è, un po' ce l'abbiamo noi. Ha detto che la pausa di riflessione. Riflette. Le pause di riflessione sono pause di riflessione. Non è molto ottimista lei, no, mi sembra che non è molto. Ha dedicato pure una poesia, una canzone. No, l'ho scritta, la non ho mica scritta oggi, quella lì è scritta del 92. Del 92, sì. Ancora c'è un'altra vita, però attualissima come senso. Ma come fa questa canzone che si sentiva malissimo dal sito di Libero? Ce l'ha davanti? Oddio, ma se vuoi tu vai per la tua strada e se sentirai di aver paura non fermarti mai più di quanto basta, è un augurio. Che allora feci, sì, sia alla persona che si lasciava che all'altra che lasciava. Cioè che il modo con cui bisognerebbe, se uno chiude un rapporto, chiuderli sempre in maniera positiva, senza rancori e senza rammarici, guardando sempre il bello. Senta, ma io non ho capito una cosa. Che cos'è che in quell'intervista Libero lei rimproverava al Partito Democratico di volere sempre soldi, in sostanza, no? Cioè di chiedere sempre, sì, di chiedere, ma... sempre dei quattrini, e invece ce n'ha tanti già dal finanziamento pubblico, diciamo la verità. Sì, e una poi per gli altri io non so, penso che quasi tutti i partiti facciano pagare un balzello ai deputati. Sì, sì. La stessa Lega, me lo raccontava una mia amica della Lega, c'è, cioè, delle percentuali, sì, 30-15. Sì. E è stata abbastanza esaustiva la Boschi in un'intervista che ha fatto l'altro giorno, quella che adesso, sì, con Renzi, che ha detto: noi siamo pronti a rinunciare addirittura al finanziamento pubblico a 40 milioni d'euro. E poi ha fatto un esempio di sprechi. Sì. Allora si potrebbero anche lasciare quei soldi, però i partiti che li utilizzano per fini più nobili, non per sprechi. Faccio un esempio: adesso come adesso il PD per esempio ha una forza nella base meravigliosa, perché però... del PD. No, voglio dire, anziché chiedere sempre soldi alla base quando, sì, fanno le feste, investire quei soldi con la base, per esempio, per dare aiuto a quelli che hanno bisogno. Sì. Ha la possibilità di aprire mense, di dar posti letto nel PD, così siete vicino alla gente. Senta, Gianni Crispino, ma mi dica una cosa, questa storia di Renzi, prima non l'abbiamo chiarita bene, però è chiaro che lei è sempre stato renziano, sua moglie ha cambiato idea, a un certo punto è salita sul carro del vincitore, diciamola tutta. Questa è una cosa giornalistica, mia moglie, e si vede che ha fatto come gli altri. Cioè? Perché io non sono nella sua testa. Non avete parlato? Ma di che parlate? No, no, di quelle cose lì se ne è parlato nel periodo in cui c'erano le prime primarie. E per quelli che erano impegnati in politica c'era un mezz'ordine di scuderia. Però Domenico, mi sembra di capire adesso, per fare una sintesi, il ministro, oltre a occuparsi degli immigrati, dovrebbe occuparsi anche di suo marito un po', e della sua famiglia. Questo... No, della famiglia si occupa. Del marito meno. Del marito meno. E l'altra... Del marito si occupa, cioè, da poco. Cioè ti senti un po' quasi abbandonato, no? No, c'ho un cagnone che è stupendo. Beh, ho capito. Ho capito, ma il cagnone... il ministro con un cane, perché il marito, la moglie con un cane. Può sostituire il cane, la moglie. Sostituisce la moglie, ma... c'ho mia figlia, poi qua che devo guardare lei, quindi... Certo. Più piccola è qui da me. Quindi sono impegnato anch'io, do una mano a casa. Ci siamo divisi i compiti, diciamo. Ma oggi... Quando può passa. Quando la sentirai adesso? Però è strano che sentono ogni due giorni. No, si può stare anche in una situazione in cui si sente poco, no, quello è il problema. Posso sentirmi anche ogni 10 giorni, io non sono uno che... quando riesco vado a Roma, devo venire, che devo dare a David te l'ho preparato il video, Infatti ho chiesto anche il cellulare di Davide, solo che in questo periodo non sono riuscito ad andare per questione di lavoro. Senta, ma non era meglio che restava a fare il medico invece di mettersi a fare la politica, secondo lei? Ma no, a lei piace, era brava come medico e spero che sia altrettanto brava in politica. Vabbè, questo... Ma Sartori... è una di quelle che ha lavorato. Sartori dice che è incompetente, il professor Sartori. Chi è dice il professor che è Sartacchi, il politologo. Il politologo, sì, il politologo. Beh, ogni tanto. Giuseppe, finora abbiamo avuto una vita di competenti che non hanno fatto niente, non sono parlato e può darsi che un incompetente, come dice Sartori, possa fare qualcosa in più. Senta, ma tu sei favorevole o no allo ius soli, a questa cosa che chi nasce in Italia è italiano? Ma l'hai no? chiesto l'altra volta. E non me lo ricordo, non me lo ricordo. Non tanto, per non sei tanto. Andando, no, per come sta andando avanti il mondo, e secondo me è una cosa che diventerà naturale. Ah, diventerà naturale. Se mi dai un secondo, vi spiego il concetto. Qua ci stanno tutti inseguendo il PIL crescente, che è un paradosso, perché una crescita indefinita con delle risorse finite non è possibile. Quindi ho capito. No, quindi se tu ammetti per un millisecondo che siamo in equilibrio a livello globale, è inevitabile, visto che quelli che i paesi emergenti sono quelli che tendono a crescere, che noi o caliamo un pelo oppure ci viene il casino, cioè non torna più l'equilibrio. Per cui in quella logica io mi prefiguro un mondo dove si girerà, capito? Dove la globalizzazione porterà anche spostamenti, quindi dove si girerà. Senti, ma il nuovo segretario della Lega ti piace invece, Salvini? No. Oppure è come gli altri? Non ti piace? No, a me della Lega l'ho detto mille volte. Non te ne frega che niente. Faceva era Tosi è una persona. Salvini è troppo estremista, Salvini? Salvini cerca di imitare Bossi. Tu dici? Sì, ma anche cerca di essere te stesso, lui fa le sparate, con le sparate non si fa niente. Comunque, che percentuale diamo? Adesso è brutto dire, ma ce la potete fare a restare insieme oppure vi separate? 20%, 30%, come funziona? Quando ci vediamo, secondo me è molto di più di stare insieme. Molto di più, molto di più. Comunque, non sei spaventato? Se no, dopo libero gode. No, Giacomo no, perché ne avrà la persona amatore. Ah, libero gode se voi vi separate, dici? Libero gode se... Non amatore no. No, lo so. Siamo diventati anche amici. Allora, tra poco, dopo la pubblicità, grazie a Domenico Crispino, marito di Ceci Chieng. Saluti la signora, Abbiamo capito che ancora la situazione non è tranquilla, comunque. C'è Maretta, Neanche tragica. C'è Maretta. Tanto hai sempre il cane, no? Hai sempre il cane. Sì, sempre il cane. C'è sempre il cane. Ognuno si è contento anche del cane. Si è contento del cane, qual è il problema? Allora, dopo la pubblicità sentiremo una cosa strepitosa. Abbiamo intercettato una telefonata di Mario Borghezio all'ambasciata congolese italiana a Kinshasa, sulla storia degli italiani che sono lì. Cioè, l'eurodeputato Borghezio telefona all'ambasciatore, alla felucca, come si dice? Ah, felucca, no, felucca. Felucca, come dicono felucca. I forconi, come dicono loro, no? Fanno tutte le doppie, come diceva il signore, felucca. Pubblicità. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La Zanzara. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. Cosa abominevole, per carità. Allora, Mario Borghezio, europarlamentare, chiama l'ambasciatore italiano a Kinshasa, Pio Mariani, lo chiama sulla situazione delle 24 coppie bloccate in Congo, 24 coppie italiane bloccate in Congo, erano finite le procedure per adozione dei bambini, la situazione non si è risolta. Sentite, uno spettacolo. Pronto? Pronto? C'è nessuno. Allo? Ah, pronto. Sì. Pronto, buongiorno, sono Borghezio, eurodeputato da Bruxelles, Parlamento Europeo. Vorrei parlare gentilmente con l'ambasciatore Mariani. Sono io, onorevole, sono io. Ah, buongiorno ambasciatore, senta, mi scusi tanto il disturbo, ma vede, siamo molto preoccupati qui e io stavo anche predisponendo un'interrogazione alla commissaria Ashton. Volevo sapere com'è la situazione e cosa riusciamo a fare, perché le notizie qui dall'Italia è che questi genitori siano un po' molto allarmati, perché dopo quasi un mese di attesa, che cosa siete riusciti a fare? Dunque, guardi, per il momento la situazione non ha avuto evoluzioni positive. Questa è una brutta notizia. 24 coppie di genitori italiani, alcune di queste sono qua da quasi 2 mesi. E naturalmente. Ma mi risulta che sono venute con l'assicurazione del ministro dell'immigrazione e dell'integrazione che era risolta la questione. E come mai c'è questa difficoltà? Dunque, il fatto è che i congolesi ci avevano promesso in sostanza che nei giorni successivi la questione sarebbe stata risolta rapidamente. Previo un piccolo ricontrollo delle pratiche. Ci facciamo rispettare o no? Perché a questo punto dobbiamo anche. Cioè abbiamo persino un ministro congolese, non lo so più di così. Ambasciatore, qui bisogna alzare il tono della voce, perché è la nostra gente che è in difficoltà. Sono sulle spese da 2 mesi e non posso sentirsi dire, come mi dice lei, che non sappiamo, che abbiamo risposte negative. Lei vada al ministero e batte i pugni sul tavolo, santo cielo! Ambasciatore, mi scusi se alzo un pochino la voce. Io ho un enorme rispetto per lei. Sì, sì. E per la sua funzione, però qui è il nostro paese che ci fa una figura di merda, mi scusi l'espressione. Sì, beh, capisco. Ambasciatore, salga sulla nave. Dunque, cavolo. Noi sì sì, no, io ci sono, guardi, ci sono sulla nave, non si benissimo, non e allora mi dia buone notizie. Io cosa sono qua fare? E condivido. Io sono pronto a venire, fare, anche bisogno di me. Io sono pronto a partire, perché questa gente è la nostra gente. Ma come mai il ministro non torna di persona, che parla la loro lingua e sicuramente si fa capire meglio di noi? Perché? Ma lei non possiamo tenere, farla venire e tornare in loco, in patria, e tra l'altro sarebbe bene se magari si fermasse anche a lungo. E risolvere almeno questo problema, visto che non ne risolve gli altri, almeno questo problema di queste povere persone e anche i bambini, perché loro vogliono tornare a fare il Natale in Italia con i bimbi. Poi dipende, bisogna sentire un attimo, perché io qua non sono uno strumento del Ministero degli Esteri. Io francamente non lo so se una visita adesso potrebbe avere effetti positivi. Noi cerchiamo, nonostante la situazione ancora difficile e bloccata, stiamo cercando, io personalmente sto cercando di arrivare al Presidente e gli abbiamo fatto arrivare il Presidente il messaggio che per cortesia faccia un gesto umanitario nella prossimità di Natale, in modo che questi possano tornare con le loro famiglie. Anche qui dal Parlamento Europeo io sono disposto a metterlo a vostra disposizione, a mie spese, l'avvocato Anetrini, grande specialista di questioni umanitarie e diritto internazionale, è pronto a partire, ma mi dica cosa dobbiamo fare. Ambasciatore, bisogna svegliare sto governo, basta i pugni sul tavolo, far capire che noi questi bimbi li dobbiamo portare a Natale, perché le famiglie vanno difese, le nostre famiglie, quando sono lì alla mercé della situazione, visto che abbiamo un ministro che non vale un H, perché il ministro Chienge in questa situazione dimostra di non valere niente. Ambasciatore, mi dica qualche cosa, io la richiamo con il suo comodo già domani mattina. Ti vede. Arrivederci l'ambasciatore. No. Sì, senta. Arrivederci. Io credo, la ringrazio della... Salga sulla nave, ambasciatore! Sì, non mi preoccupi, io devo fare in continuazione. Prego. Arrivederci. No. Sì. Io credo che lei forse potrebbe sensibilizzare il Parlamento Europeo e perché no una lettera del Presidente del Parlamento Europeo al Presidente del Congo per vedere di chiedergli un gesto umanitario in prossimità di Natale. Ormai è tutto degradato. Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto Oh, a proposito di Forconi, ieri abbiamo sorvolato su una cosa. Abbiamo sorvolato su una cosa, cari amici della Zanzara. Abbiamo sorvolato su un fatto: c'era una Forcona di Modena, una Forcona di Modena. Attento che qui si giochi di parole. No, forcona, una forcona, una rappresentante dei Forconi. No, stavolta non stavo facendo giochi di parole sessuali. Una Forcona di Modena, di non mi ricordo che si chiama, Michela, Barbara, Monica, no? La quale poi ha ritrattato dicendo la colpa è dei giornalisti, come al solito, ha detto che c'era bisogno di fare un governo militare di transizione. Sentiamo. La legge prevederebbe che in caso di scioglimento delle camere, momentaneamente, fino a elezioni, ci sia comunque un sistema che mantenga l'ordine, ecco, perché la Costituzione non prevede anarchia, però ci sia un sistema che garantisce che vengano rispettate le leggi già in vigore. Chiaramente non può fare e non può... E sarebbe questa giunta militare di cui si parla nei siti? Sì, questo governo di tipo militare, ma non è quello lo scopo. Governo di tipo militare, ma che vuol dire il governo di tipo militare? Sai cosa mi ha ricordato? Siamo su un livello ovviamente superiore, Non siamo su un livello così come questa qua dei Forconi. Vogliamo i colonnelli. Beh sì, vogliamo i colonnelli. Era, insomma, mettere in burletta una cosa molto seria che era un golpe militare. Sì. Questi non sanno nemmeno di cosa si sta parlando, questi maledetti Forconi che hanno bloccato le strade per giorni e ci hanno rotto i coglioni. Ecco. Sentiamo Tognazzi, che è molto più serio. Tra poco, camerati, vi verranno affidate le briglie del paese. E Dio briglie, perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta. Ordine, obbedienza, disciplina. Basta con l'antistorica uguaglianza. Ma che vuol dire? Ma perché un ingegnere deve essere uguale a un muratore? Madonna d'un Dio! Soltanto i coglioni sono uguali l'uno all'altro. Bravo! Perché se questa è la democrazia, sapete che vi dico? Moschettieri, imbracciate il fucile! Artiglieri, innescate la miccia! Genieri, fuori i lamponi e sabotate le linee! Caimani, pugnale fra i denti e distruggiamola questa democrazia! Schiacciamolo, questo vostro infame! Evviva l'obbedienza! Evviva il comando! Ci è venuto a trovare qui Gianmarco Tognazzi, buonasera. Benvenuto. Tarapia Tapioco, buonasera. Come fosse Antani? Tarapia Tapioco. Come fosse Antani, con lo scappellamento. Parla con lui che è maturata la supercazzola o scherziamo? O scherziamo, sorella. Come se fosse Antani per due. Me la dà una confraternita pulitina. Certamente. Dice alla macchina. Com'era quello che mi dicevi sempre, la telefonata di Tognazzi al coso? La telesega. Pronto, sono io. No, quello che faceva. Sento già. Ah, sì. L'odore delle tue cosce tornite. Com'è che faceva? Zitto, porco! Non lo sai tu, sì. Fatemi lavorare. Io alcune le so, ma io, sai, non ricordo. Fatemi lavorare. La famosa telesega. Perché hai aperto il Fatto Quotidiano davanti a te? Perché non riuscivo a capire se questa signora. Questa signorina, della giunta. Se ora forse Senorina. Chiamisi. In un articolo la chiamano Monica, in un'altra Michela. In una c'ha 25 anni, in un'altra 27 e gli articoli sono attaccati. Allora non riesco a capire se si sono sbagliati o se sono due entità diverse o come è notorio io non capisco un cazzo. No, però scusami Gianmarco, se tuo padre come attore valeva 10, tu quanto vali? Da 10 a 1 forse è un po' troppo, però è un periodo in cui è meglio stare sul basso, quindi diciamo 3. Rispetto al 10 di tuo padre, 3 ci può stare. Sì. Rispetto al 10 di tuo padre, 3. Ma non mi dire che sei stato anche tu affascinato dai Forconi, no? Non mi dire questo. In che senso affascinato? Che ti piacciono questi Forconi che vanno in piazza a protestare? Non è una questione di piacere, cioè io credo che sia una inevitabile come dire, reazione popolare a un malcontento che però poi, come ogni tanto dite voi, non si riesce bene a capire. Ma che vogliono questi Forconi? Ma no, cosa vogliono più o meno lo hanno detto, però dicono una cosa che si dice spesso, si dice in tutte un po'... Cioè via questo governo, sai, io sono, lo dico molto sinceramente, io sono uno, no, intanto lo ripeto, non capisco un cazzo, ma detto questo... Non sei come uno di quegli attori che invece pensano di essere, no? Di capire benissimo il mondo, di capire benissimo la politica, che fanno i loro proclami, cioè tu non firmi fanno appelli. I loro endorsement, quelli che fanno l'endorsement per Renzi, per esempio, del mondo dello spettacolo, come le trovi queste persone? Ma legittimo? Ma sì, ma io trovo un po' tutto legittimo, non so. Poi ci sono delle cose che mi convincono e delle cose che non mi convincono. Il concetto è molto semplice, io sono uno pratico e siccome questo è un paese dove la pratica è messa un po' alla berlina, è tutta molta teoria, faccio un po' fatica. A Renzi ti piace, per esempio? In teoria sì. Lo voteresti? In teoria sì. Grillo ti piace? In teoria sì. L'hai votato? Sì, l'ho anche, ma ho votato anche tanti altri. Adesso l'ultimo hai votato Grillo. Ma sì, perché c'è sempre, cioè quando c'è un'ipotesi di cambiamento, di novità proviamo. Ma lo rivoteresti adesso? Lo rivoteresti quasi un anno dopo? No. Ma io voterei per il PDEI. Cos'è il PDEI? È il partito di Gastuan Shakarinu. Ma che cos'è? E chi sei? Noi siamo ignoranti su questo. Questo è grave. Questo è grave. Il PDEI è un nuovo partito fondato da Gastuan Shakarinu. Adesso lo guardo su Google. Non lo trovi. Trovi Gastuan Shakarinu. Praticamente PDEI sta per. L'acronimo partito? Partito dei? Assolutamente. Non dici democratico. Non dici questo. Dici partito del ok entusiasmo immotivato. Sei del partito dell'entusiasmo immotivato. Che vuol dire? Che qualsiasi cazzata ci esaltiamo. Tu sei così, ti esalti per poco. No, però per fare ironia, per fare cosa, allora preferisco un partito che non dici niente. Ho capito, Renzi ti esalta in qualche modo? No, ti entusiasmi. Allora, a parte gli scherzi, è giovane, vogliamo dire giovane nella... Sì, 38 anni, ecco, però, cosa non è più o meno. Allora... Ma ci sono un sacco di vecchi che dicono delle cose saggissime, giovani che dicono delle stronzate. Questo è verissimo. Cioè, cos'è verissimo? Che ti accende l'animo, ad esempio, che ti accende in poi, c'è un passione. Politico che ti fa accendere, che ti accendi quando lo senti, dico, questo qua, insomma, mi convince. No, nessuno. No, a me nessuno, devo dire. Non è che seguo molto, io tranne voi, ascoltare voi. Quindi è grave, io, molto lo so che è grave. Tu però ti informi attraverso di noi. Più o meno sì. Allora, io mi informo attraverso quello che ritengo satira. Siccome ritengo la Zanzara soprattutto satira, poi fa anche dei ragionamenti e delle analisi, pochi. Secondo me. No, non ogni tanto, certe volte tu, certe volte lui. Però mi piace questo modo di fare satira su un'argomentazione. Ma cos'è che Grillo, per esempio, ti ha deluso in questo anno? Dimmi la verità, cosa ti ha deluso? Ma non, cioè, ripeto, l'aspetto pratico, no? Cioè, ok, arrivi là, pieni, ok, hai avuto coerenza nel dire non faccio coalizione, però sai benissimo che se non dico cose di una banalità, Cruciani, perché mi fai dire le cose banali? Mi fai dire le cose banali, mi sento banali? Un cretino. Perché è banale? Perché poi quello che uno sei un elettore di Grillo, una persona più o meno conosciuta che dice in questo anno è mancata. No, molto conosciuta. Ormai che hai fatto? No, nel senso che se ci sono nuove elezioni, forse c'è un'altra votazione, forse si cambiano. Eri. Cioè, capisci? Eri che? Se ho votato. Hai votato. Ma sì. C'è già questa notizia, no? Nuove elezioni, tanto più o meno ogni tre mesi. Beh, sono le europee, quelle ci saranno di sicuro tra un po'. Sì. Le politiche non si sa. Cioè... Le politiche, però, si dice facciamo nuove elezioni. I Forconi vogliono nuove elezioni. Se non sbaglio, ma Forconi. Ma se Grillo te lo chiedesse, ti candideresti tu? Ma io non mi candiderei in generale perché non sono all'altezza. Io potrei parlare soltanto dell'argomento che mi sta più a cuore: cinema e teatro. Beh, diciamo di una cosa minima per il paese. Cioè, per esempio, questi qua che hanno occupato e occupano ancora, forse non lo so, io mi sono. Li ho attaccati pesantemente là, il teatro, quello a Roma, come si chiama? Il Valle, ma no, dai, basta occupare le cose pubbliche. Ma sì, infatti io non l'ho occupata, però. No, tu non c'è. Non ero. Però capisco che anche lì è una forma di protesta. Cioè. Beh, lì però ci sono un gruppo di ragazzi che volevano, e di attori che volevano riprendersi la cultura, questo dicevano. Allora, se vogliamo, posso dire una cazzata magistrale, la posso dire? Ne ho titolo? Sì. Allora, la cazzata magistrale è questa. Pensa che a me sta a cuore un discorsino semplice. Intanto sono anch'io illuminato. Sì. Come quello che ha telefonato. No. Tra gli illuminati anche tu? Ah sì, guarda che se vado sul set spesso sono illuminato, altrimenti non si vede un cazzo. Quindi sicuramente ogni tanto anch'io sono illuminato. Solo in quel senso. Parlo di un problema piccolo che capisco possa interessare poco. Credo che 2-3 milioni, 4 milioni di posti di lavoro non interessino. Cioè, no, interessa molto. Così, la butto lì. Il cinema. Così. No, non il cinema, teatro. No, non il cinema. Così volevo soltanto far presente che, visto che non ne parla nessuno, che ancora oggi il più grosso patrimonio che ha questo paese è il patrimonio culturale. E non si dice mai una cosa, Giuseppe, e questo vorrei dirlo Qual è? Che quando si parla di tagli alla cultura non si parla di tagli necessariamente agli artisti, perché per fare in modo che un artista possa fare un film ci sono più o meno 200 o 300 operai specializzati che lavorano. Oh, vabbè, certo, quello è chiaro. Ecco, quindi se tu calcoli tutta, tutta l'industrializzazione di quello che è l'arte in Italia e tutto il lavoro che potrebbe dare, io capisco che essendo il più grosso patrimonio è un problema di cui non curarsi. Senti, Marco, ma raccontaci una cosa: come si vive in una famiglia allargata? La famiglia Tognazzi ha questo di stupendo. Beh, no? Adesso arriva Natale, tra famiglia un po'. Allargata ci si sono... sta stretti. In una famiglia allargata si ma sta stretti. Ma ci sono litigi tra tutti i fratelli? Tu di sei favorevole ai matrimoni gay, per esempio? Sì. Ma certo. Matrimoni proprio. Ma adozioni pure. Ma che adozioni? Ci cambia? A me lo dici? Noi ma cosa cambia? Le adozioni? Ma vogliamo parlare di cose serie? Nel senso, non che non siano serie, ma che problema gli dà se si sposano o no? Cioè, le adozioni, adozioni. Beh, Giovanardi è contrario. L'adozione non lo so, nel senso che forse bisognerebbe pensare da caso a caso, ma dico un'altra banalità. Però fondamentalmente non è che sono contro, io non sono contro a priori a nulla. Certo. Non so come dire. Ma l'adozione io sono favorevole, ci sono famiglie, ragazzi cresciuti in famiglie omosessuali che sono cresciuti normalmente, al contrario, ci sono persone disturbate che sono cresciuti in famiglie eterosessuali. Attenzione, che hanno avuto un sacco di ci sono bambini che sono cresciuti in famiglie così apparentemente etero e solo dopo anni hanno scoperto che i genitori erano omosessuali. Anche c'è anche quest'altra possibilità. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Siamo qui Gianluca da Bergamo. Buonasera Gianluca. Gianluca? Sì, ciao, sono Luca. Dimmi Luca. Io volevo dirvi a te e a Parenzo che siete due bastardi. Perché? Anche io, grazie. Anche io. Perché io ho smesso di fumare 2 anni fa, ho smesso di bere, non vado con le prostitute, sono sposato e da 2 anni che vi ascolto ogni volta che esco dal lavoro e metto la radio e vado in casa con le cuffiette per ascoltare la Zanzara. 2 settimane fa mi sono comprato la radio subacquea per ascoltarvi sotto la doccia. Malato, io non posso andare avanti così. Un malato, vero? Vabbè, ma sei un malato di mente. Però ti vogliamo bene. Come ti chiami? Gianluca. Luca da Bergamo. Quanti anni hai? Che canzone vuoi che ti dedichiamo? 35. Mi aspettavo Artigiano un po' di meno. Ma disperato bergamasco. Ma disperato che vuol dire, Luca? No, vabbè, disperato come tutti. Ce la caviamo, bisogna dire la verità. Perché non sei andato in piazza con i forconi pure te? No, dai, non mi interessa. Ma non c'ha tempo da perdere questo qua. Cioè, non ha tempo da perdere. Torno dal camioncino, da Verona, mi sono fatto i miei 700 chilometri anche oggi a sbaccare giù e via. Ma certo, mi ha chiamato oggi, anzi no, mi ha mandato una mail oggi un artigiano come te e mi ha detto delle difficoltà che ha incontrato in questi giorni. Eccolo qua, ogni giorno mi incavolo di più, ho iniziato a suonare il clacson ai forcaioli, oggi ho rischiato, in Argentina ho dovuto subire per anni i picheteros, ma qua non sono disposto ad accettare queste vessazioni, i vigili fermano noi e non fanno niente contro questi che danneggiano il nostro diritto alla libera circolazione. È questo quello che succede alle persone che lavorano dalla mattina alla sera, non andare lì a sventolare 2 bandiere a fare gli inni italiani come ha fatto oggi Galbani. Dai, fatemi sentire Galbani oggi che sembrava Mussolini in Piazza del Popolo, con questa prosopopea, con questa voce. Dai, Galbani, su, fammi sentire Galbani. Io avevo un grande stato. Cittadini italiani, culla della civiltà occidentale, noi siamo meglio di questa gentaglia, siamo molto, ma molto meglio, ed è per questo che il 9 dicembre è iniziata la liberazione del territorio italiano da questi parassiti. Era abbastanza. Sì, ma Paolo, provincia di Alessandria. Fammi sentire Paolo prima di tornare a Gianmarco. Liberazione. Dai, Paolo. Signor Giuseppe. Dimmi. Buonasera. Sì. Senta, Cruciani, io volevo farle una domanda. Brevissimo. Perché lei continua a snobbare i cosiddetti forconi? Ma non li snobbo io, si sono snobbati da solo, erano 3.000 oggi, un flop pazzesco a Piazza del Popolo. Sì. Questo non significa niente, perché anche le minoranze ogni tanto hanno ragione. Ecco, non vuol dire una questione di numeri. Però dovevano mobilitare la marcia su Roma. Ma è questione di quel che dicono, non di numeri, perché anche Giustizia e Libertà era un movimento piccolissimo, sì, e Partito d'Azione, però parli troppo serio, Giustizia erano 3.000 su Roma, hai ragione. Ma te lo sei chiesto perché erano 3.000 su Roma? Guardi, i problemi veri dell'Italia lo sa quali sono, non sono quelli che portano avanti i forconi, sono quelli del sindaco di Berceto, che è un paese vicino Parma, in provincia di Parma, il quale denuncia che cosa? I problemi dell'Italia sa quali sono? No, è questo qua che le dico io, non si preoccupi. Ci sono io. No. Aspetta, ma non l'ha neanche sentito, dice no, aspetti un attimo. Allora, sindaco di Berceto, il quale per dipingere, tinteggiare un viadotto, che passa per la sua cittadina, 2200 anni. Ma non lo sa nemmeno, aspetti, per tinteggiare questo viadotto gli è arrivato un plico alto così, 148 centimetri, da non so che cosa, dall'autocamionale della CISA SPA, che per avere l'autorizzazione ambientale, eccetera, eccetera, gli ha mandato 88 chili di documenti. 88 chili per dipingere una roba lì. Da compilare. Da compilare, da esaminare. 4 anni per compilare 88 chili. È questa roba qui che bisogna risolvere. La burocrazia, le carte. Bravo. La pratica, basta teoria, pratica. E dai, sì, Mughini, dimmi Paolo, allora? Allora, senti, vuoi parlare tu o parlo io? Ma no, parla, dimmi. Allora, tu mi devi spiegare. Perché continui a dire a sti forconi che venuto li pigli per il culo perché pretendi da quel signore che urla in piazza la sua disperazione, poverino. Ma quale disperazione? Ma è tutto tranne che disperato, su, ma l'ha visto in faccia, è tutto tranne che disperato. Beh, non lo sappiamo, però. Ma gli si faccia chi? Ma io non ti sto mica parlando del capo. Ma qual è il problema? Uno è disperato, va in piazza e dice italiani! Dai, su, ma è patetico. No. Senti, allora, facciamo una cosa, ti faccio un'altra domanda. Tu mi dici, fammi solo un esempio di una cosa che sti quattro maiali che sono da 20 anni al governo... che hanno fatto di sensato. Che vabbè, ma magari ci sono tante cose di sensato. Effettivamente negli ultimi 20 anni non hanno fatto un cazzo. Non sono tutti uguali, a parte che non sono tutti uguali. Lavoro da quando ho 15 anni, va bene? Sì, ma hai ragione di fondo che non hanno fatto poco, d'accordo. Ma non è che uno può dire andare in piazza e dire basta, via questo governo. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. No, vuol dire tutto. Tu non puoi pretendere che quel poveraccio dei forconi in piazza, magari... culturalmente poverino, ma non è culturalmente, che c'entra culturalmente? La terza media pretendi delle risposte da lui. Ma io non pretendo delle risposte. Quali sono le richieste? Quali sono le richieste di sti forconi? Nessuna richiesta. Tu non devi fare lo stronzo con loro e poi l'agnellino col politico che... Ma che c'entra? Agnellino ha un altro ruolo qua ogni tanto, dai, su, smettila. Tu le domande, le risposte, alle soluzioni devi chiedere a quello stronzo che inviti in trasmissione. Ma infatti quando non li danno noi sorvoliamo, li mandiamo. Forse sono io. No, non è Gianmarco. Antonio, va bene Paolo, grazie. Allora Gianmarco, voglio capire una cosa da te. Ma perché stronzo non era male? No, non era male. Per dire. Allora io voglio dire una cosa, ma ci sarà un politico, uno che ti ispira fiducia, uno. Non puoi essere anche tu così distruttivo. Lui è pacifico. No, mi sembra distruttivo. Allora voglio dire una, allora adesso mi hai provocato, voglio dire una dimmi, cosa. Dimmi. Voglio dire una cosa forte. Dimmi. Però ti prendi la responsabilità di quello che sto dicendo. Dai, dai, te dimmi, la prendi dimmi. Tu, Sì, me la prendo io, dimmi. Allora? Fatto, basta. Niente, nessuno. No, non hai sentito, guarda che non hai sentito. No, ho non ho sentito, aspetta. È una cosa forte. Allora? Ti prendi la responsabilità, però. Sì, risentiamo la registrazione. Sì. Ma di cosa? Registrazione di cosa? Aspetta. Sì, dilla. Ah, sì, ho capito. Prematurata come se fosse Antani. Ma chi avrebbe votato tuo padre se fosse stato oggi in Italia? Secondo ma te? Mio padre ha votato anche per un periodo radicali. Anche io ho votato radicale, ho fatto anche la campagna per Marco anni fa. Scusate se vi ho disturbato. Questa è Pannella prima della distruzione dello studio. Ti dispiacerebbe pecorizzarti per essere un po' più... Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? No, Mughini, Mughini. Dai, si dice, ti piacerebbe agevolare la pecorizzazione? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Certo, grazie, ti ringrazio, ci vado con piacere. Tanto allora, non c'è sei l'unico. Una giornalista che si chiama Angela Azzaro, vice direttore di Altri, settimanale indipendente senza finanziamento pubblico, questo va benissimo. Mi insulta? No, ma va benissimo. E dice: ci vuole una bella faccia a parlare di flop dei forconi dopo quello suo in TV. Signora Azzaro, non c'entra una mazza, scusi, non c'entra, per dirla così, non c'entra un cazzo. Ti posso dire che oggi però c'è stato un per quello che mi riguarda. Ma tutti non c'entra nulla. Tutti mi hanno detto non andare a Roma, tu sai che non vivo a Roma perché ci sono i forconi, sarà tutto bloccato. E invece sei arrivato tranquillo. Io ragazzi, non scherzo, ho consegnato 18 pacchi di Natale partendo da Leur arrivando fino a qua dietro. senza nessun problema, la viabilità. Ma perché fai il fattorino? Che così non diciamo. No, perché lo faccio personalmente, lo faccio agli amici, consegni quello che produci delle tue tenute. Non è vero che poi c'era tutto questo assembramento. No, oggi no, perché erano quattro gatti, però erano 3.000 persone. No, ma proprio Roma era più libera. Ma poi che cosa c'entra questa qua? Io non capisco. Luciana da Genova, dai, Luciana. Luciana? Luciana? Pronto, Lucianina? Dimmi, cara. Pronto? Dimmi, cara. Ah, buonasera, dottor Cruciani. Niente, io sui forconi, vabbè, come dire, ormai ne avete già tanto parlato, era sull'informazione. L'informazione, sì. Che mi voleva dire? Però anche un discorso dobbiamo buttare in vacca, possibilmente. Io vivo a Genova, giusto? Vivi a Genova, sì. E allora? Nel centro, nei vicoli. E nei dico, siamo in mano, siamo in mano alla delinquenza. Droga, fiumi, ma alcol. Non siamo in mano alla delinquenza, ci sono i delinquenti, ci sono i delinquenti, che siamo in mano alla delinquenza. Apri il giornale, succedono delle cose molto brutte. Ma questa ha bevuto? Una brutta fiera da buttare, Rita fa in giro. Ma questa ha bevuto? Lei ha bevuto. Io dico, vendono alcol ai ragazzini, ma ci sono tonne di ragazzini ubriachi. E lei c'ha una figlia, no? Vendo alcol. Ma che c'entra questo? Ma non, c'è gente ubriaca, sì, è vero, c'è gente che si ubriaca. Ma ho capito, ma però non è SOS aiuto minori questa trasmissione, scusi, signora mia. No, in questo caso è aiuto adulti, aiuto anziani. Nella realtà che su si sente una ragazzina già ubriaca, una minorenne. No, ma lei ha bevuto, secondo me, Luciana, stasera lei ha bevuto. Aspetti, e tu lei c'ha una figlia, e tu gli dai ancora. Dai, da quale reparto chiama, signora? Che succede? Che reparto è il suo, Luciana? Mandate medici in corsia, medici in corsia. Niente, e la lista continua a decidere. Va bene, grazie, grazie signora, grazie. Passano fra poco, arrivano due. Dicono, grazie, Graziella. Cruciani, sempre una cosa, ma avete saputo che è scappato un grande serial killer oggi? No, questa è una vergogna, questa hai ragione tu, è una vergogna. No, ma è strano, perché il direttore del carcere ha detto che, dice, ma gli abbiamo dato il permesso perché non sapevamo. Questa è una cosa incredibile, come funziona la giustizia in Italia. Hai fatto bene a ricordarmelo, Gianmarco, perché è una vergogna. Me ne era appuntato, non ne ho parlato. E poi vogliono mandare fuori la gente adesso con lo sapevo. Io voglio andare in quel carcere. Lo sapevo. Allora, oggi hanno mandato fuori dal carcere. No, ma non c'entra nulla col decreto del governo. Non c'entra col decreto del governo. Un pluriomicida serial killer. Pluriomicida serial killer. Ha ammazzato, credo, 3 persone. Forse 5, non mi ricordo bene. Oltre a rapine, tentativi di evasione. L'hanno mandato. Non è che l'hanno mandato via. È evaso perché era in permesso premio. Perché gli danno permessi premi a gente pluriomicida, perché non sapevano che fosse un pluriomicida, ma questa è la cosa sbagliato. Più strana. Ma dai, su, ma è chiaro. Vabbè, che hanno sbagliato. Dai. Non mi molesta il moschetto. Oh, abbiamo oggi un terzo conduttore qui con noi, Gianmarco Dognazzi. Non sono alla vostra altezza. Sei alla nostra altezza, assolutamente. Vabbè, non capisci un cazzo, anche noi non capiamo un cazzo. Però è successo una cosa che era imprevedibile fino a poco tempo fa. Uno dei baluardi, uno dei volti della RAI. Tu te lo ricordi chi era il corrispondente da Londra della RAI? Chi è stato per tanti anni? Lo sai chi è stato? Antonio? Caprari? Caprarica. Caprarica. Elegantissimo, già Paese Sera, già l'Unità. Brano, pensa un po'. Ma che c'entra Brano? Ma dai, su. Ma tu non sei un cazzo veramente. È proprio vero. Antonio, ciao, come stai? Ciao. C'è Gianmarco Dognazzi, manco sa. È rimasto. Non deve essere tra i miei telespettatori più affezionati, forse. Ma no, ma io sono come Cruciani, mi deve scusare, io non ricordo assolutamente nulla. Di quello che hai fatto il secondo brillo. Soprattutto, a parte quello, ma soprattutto i nomi associati alla faccia. Noi vecchietti, ma lei quanti anni ha? Ma lui è giovane, Antonio. Guarda, io vado per i 47, ma faccio figure di merda quotidiana. Allora è troppo presto per non ricordare niente. Ma scusa, Antonio, io ho letto qualche cosa oggi, ti sei licenziato perché dici la RAI mi perseguita. L'hanno trattato malissimo, al di là delle cose adesso tecniche, delle questioni che ti rimproverano, di cui ovviamente a noi non importa nulla, nel senso. Ma perché ti sei veramente licenziato dalla RAI? No, scusa, io ho licenziato la RAI. Come hai licenziato tu? Sì, io ho licenziato un gruppo dirigente che non capisce un tubo di televisione e che invece di preoccuparsi di tenere un pezzo di storia, adesso non di storia, per carità, un pezzo di cronaca quotidiana. Beh, l'hai detto, un pezzo di storia. L'ho detto, adesso faccio il modesto, va bene, invece di preoccuparsi di tenerselo, si preoccupa di cacciarlo. E allora, come dire, ho tolto il disturbo però ho incaricato i miei avvocati di presentare la storia. Ma cosa ti contestano? Scusa, Antonio, cosa ti contestano in sostanza? Di aver violato regole burocratiche aziendali, di non aver chiesto certificato. Non ho chiesto il certificato antimafia ai miei collaboratori freelance a Londra. Non ho fatto la gara europea per la. Ma cosa dei collaboratori, per la scelta dei collaboratori. Ma quanti anni hai, scusa Antonio, tu quanti anni hai? Ragazzi, non me lo chiedete così. Ma no, vabbè, mica non sei... è proprio il momento, ce l'ho 63, porca miseria. Ma a 63 anni uno può pure pensare di andarsene in vacanza. Ma con la storia me ne sto andando, me ne sto andando in vacanza, però non è che gli posso... Io però sono uno di quelli tignosi. No, ma fai bene, fai bene. Bravo, fai bene. Cioè, io me ne vado in vacanza, però lascio la RAI a testa alta e devo dire... chi e per quale ragione la lascio a testa alta, e poi ci penseranno i giudici. Scusami Antonio, dimmi una cosa, ma chi è che ti ha voluto cacciare in primis? Gubitosi, il capo della RAI? La sua è la firma sotto la lettera di addebiti, le contestazioni più infondate e pretestuose. Ma ti ha ricevuto, sei riuscito a vederlo? Ex direttore del personale Flussi, adesso dell'attuale nuovo Fiorespino, quindi è il gruppo dirigente. Ah no, dimentico, scusate, avevo passato tutte le carte relative a quella che per me è una persecuzione al consiglio d'amministrazione, il quale non si è degnato nemmeno di rispondere, aveva altro da fare, chissà. Però scusami Antonio, tu quanto avevi ancora? 2 anni prima di andare in pensione? Sì, 2 anni prima di andare in pensione. E avresti ancora, come dire, fatto la tua corrispondenza da Londra? Io andare in pensione anche domani, però insomma voglio dire, avevo 2 anni prima dei 65 anni. Ma chi è stato quello più stronzo, proprio il più stronzo in assoluto? Lo possiamo definirlo così? Beh, questa, come tu capisci, sarebbe dal punto di vista giudiziario un suicidio che io commetto in diretta. No, infatti non te lo faccio fare, non te lo faccio fare. Per adesso non ti faccio suicidare, ti spingo verso il baratro. Diciamolo in inglese, però, che insomma, più fine. Un po' di nomi già ve l'ho fatto. Attribuite voi la palma, dai, voi potete farlo senza rischiare. No, ma però le ragioni, Antonio, di fondo quali sono? Che non te volevano più, che costavi... Che dovevo essere rottamato perché, che so, costato, per le cravatte, non gli piacevano le tue cravatte. Guarda, lo sai che ho trovato anche una sola signora tra quelle che mi vedevano e ho detto: ma guardi, a me le sue cravatte non piacciono. Però non è ancora un motivo di licenziamento questo qui. Però io voglio capire una cosa: c'è la politica dietro, Antonio, o no? Guarda, secondo me del passaggio dai politici ai tecnici abbiamo fatto uno di quegli errori più clamorosi che peggio non si potevano immaginare. Cioè è meglio la politica, la RAI dei tecnici? Guarda, io ti dico solo questo, che secondo me la politica non è uscita affatto dalla RAI. Vabbè, solo che il lupo si è travestito da agnello e fa i soliti giochetti. Sì, no. Ma non ti hanno mai ricevuto? Hai provato a parlare col direttore generale? Sì, mi ha ricevuto. Mi ha convocato l'8 novembre. Mi ha detto: guardi, se lei se ne va, il procedimento disciplinare che abbiamo aperto contro di lei lo lasciamo decadere. Allora ho detto: no, vada avanti, perché io da qui me ne esco a testa alta. Pensi un po'. Cioè, ti volevano far passare come chi? Come uno allegro con le spese, con i collaboratori? No, non ci hanno nemmeno provato, perché negli addebiti non potevano proprio, capisci? Cioè, non esiste. Volevano fare passare come uno che non sa gestire, che non gestiva appropriatamente l'amministrazione della rispondenza, capisci? Come uno, insomma, un buon giornalista, però certo, insomma, uno che non ci capiva niente di cose. E che farai adesso? Ma sei torrenziano, intanto scrivo un nuovo libro, naturalmente, sulla RAI, e poi adesso già uscito... pubblico mi invitate, diciamo. Scusami Antonio, ma tu sei un po' renziano? Guarda, posso dire la verità, io ho maturato una straordinaria ammirazione per Elisabetta II, la possiamo proporre in Italia? Ci vorrebbe un'Elisabetta, cioè ci vorrebbe la monarchia anche in Italia. Sì, ma quella buona però, non quella scascia che avevamo noi a queste parti, capito? Sì. Ma non ti ricordi Gianmarco Dognati sulle cronache di Antonio Capralica da Londra per i funerali di Lady Diana, o quando lui davanti a Buckingham Palace diceva in modo magistrale... Ero in Malesia. No. Non è sempre, non sei un caso. Sentite, ho capito. Vabbè, grazie caro Tognazzi, apprezzo molto la sua solidarietà in questo momento per me. No, io sono solidale con lei e preacquisto il libro che scriverà. Però scusami Antonio, non mi sembri molto abbattuto, adesso diciamo la verità. No, non sono abbattuto, perché io quando subisco un'ingiustizia divento furibondo, quindi più che ottimo, abbattuto anch'io. Sono molto bellicoso, guarda, proprio lungi da me l'idea. Per cui caro Gubitosi, fra poco ci sarà un Caprarica scatenato litigato con gli avvocati, scatenato. Devo dire che a me un po' le cause mi fanno tristezza, però anche a me, guarda, ascolta Giuseppe, ti devo dire la verità, sono bellicoso, ma ho una grande amarezza e una grande tristezza dentro, perché per me la RAI sono di quei debosciati che concepivano questa azienda, diciamo, la cosa. Ma non ci vuole una bella privatizzazione? Noi siamo favorevoli alla privatizzazione, da almeno due anni prima. Certo, dipende l'idea che finché c'è la legge e le norme, la norma si rispetta. E la comunque legge privatizzare si deve. Parliamone. Sì. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Grazie, perché non sei un pazzo? Ciao. Perché sto in campagna, faccio il vino, l'olio. No, ma una cosa, dirò l'ennesima cosa che sapete. Voi sapete che c'è una meravigliosa canzone di Rita Pavone che si chiama La Zanzara? Sì, l'abbiamo messa per un periodo, poi ci hanno fatto dei casini. Ah sì? Pensa che io la volevo spedire, dico ma mettete. Vabbè, perché la sentivo da piccolo quando ero bambino. Loro hanno fatto casini. Zanzara. Vabbè, ci dobbiamo lasciare. Gianmarco Dognazzi, ci devi trovare, devi tornare da noi assolutamente. E quando volete, vi mando Gaston, se no. Che? Sì, te l'ho detto, il grandissimo Gaston, il fondatore del Partito dell'Entusiasmo. Che si chiama? A domani 18:30. Forse sono io. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente La Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.